Ciao a tutte, ciao a tutti, grazie di essere qui e grazie alle compagne e al compagno di Venezia che ci hanno portato questo opuscolo che hanno è un'analisi di quello che sta succedendo a Venezia e ha un titolo che ci è piaciuto tantissimo. Un organo che tutto controlla, un controllo che tutto organizza. Smart Control Room a Venezia, polizia e giustizia predittiva, chip, UAR e molte altre brutte cose che in effetti rendono molto l'idea. Allora, noi l'abbiamo letto come assemblea no Green Pass e ci è piaciuto tanto perché di fatto è il percorso che stiamo facendo anche noi. Non è soltanto un problema di ZTL qui a Roma, non è un problema di ZTL, di smart city, di città di 15 minuti, di controllo, non solo qui a Roma, ma anche in altre città, Venezia non ne parliamo, ma anche tipo a Trento, Milano, Torino e compagnia bella. È che loro, come stiamo tentando di fare noi da un po' di tempo, cercano di portare a sintesi più di una cosa, cioè loro non si sono fermati al discorso del controllo, hanno cercato di capire quello che il controllo si propone, quali sono gli obiettivi di questa fase del capitale, che cosa ha in testa questo sistema di potere, che è un po' quello che da tanto tempo, anche ancora dai tempi del Green Pass, la nostra assemblea ha sempre avuto presente. Cioè, ci sono tanti piani lungo cui si muove questo sistema per cambiare dalle fondamenta la struttura sociale, perché questo è il suo obiettivo. Cambiare la struttura sociale vuol dire ridefinire tutti gli aspetti su cui è fondata, da quello economico a quello militare, a quello della gestione del sociale, a quello del controllo, a quello della medicina, a quello della digitalizzazione. Questi sono tutti piani che tra loro sembrano slegati o comunque sembrano molto specialistici, no? Perché poi quando uno si occupa di una cosa, si occupa della sanità, si occupa della scuola, si occupa della medicina, si occupa di quello che fanno in campo militare, sia come industrie, sia come gestione delle guerre, sembra che siano ambiti o comunque percorsi che vanno per conto loro, cosa assolutamente non vera, anzi tutti convergono nel progetto, perché questo sistema di potere ha un vero e proprio progetto, quello di cambiare la società dalle fondamenta, di istituire un nuovo rapporto con i subalterni, completamente diverso da quello che ha adesso. Usare tutti i sistemi di digitalizzazione, informatici, intelligenza artificiale, ricerca di guerra che poi serve sia sul fronte interno che sul fronte esterno, sistematizzazione dei meccanismi, delle emergenze in tutti i campi, compreso quello climatico, ecologico, ambientalista e compagnia dicendo, per ottenere questo cambiamento epocale della società. Allora, a questo punto non voglio dilungarmi perché poi magari nel dibattito verranno fuori tanti di questi aspetti e ognuno porterà la sua esperienza. Quindi passo direttamente la parola ai compagni che ci racconteranno cosa succede a Venezia e l'analisi che hanno fatto loro e le deduzioni che ne hanno tratto. Vabbè, ciao a tutti e a tutte, io sono Andrea del collettivo che ha scritto insomma, questo opuscoletto. Prima di tutto volevo ringraziare le compagne e i compagni del comitato No Green Pass di Roma per l'invito che ci ha fatto davvero piacere e ovviamente anche chi ci ospita. L'invito ci ha fatto piacere in particolar modo proprio perché diciamo, intercetta abbastanza puntualmente il senso del lavoro che noi abbiamo provato a sviluppare, cioè L'opuscoletto che noi abbiamo scritto è, diciamo, il risultato di un lavoro di gruppo, di un gruppo studio che abbiamo provato a portare avanti in 5 persone nel collettivo universitario di Venezia. Un gruppo studio durato più o meno un mese, che si era dato l'obiettivo di cercare di fare un lavoro d'analisi partendo dalla situazione specifica che viviamo nella Venezia, quindi appunto quella della smart control room e dell'introduzione del ticket d'accesso che dopo proveremo brevemente a spiegare, però che appunto non volesse focalizzarsi sulla dimensione prettamente locale di Venezia, ma che provasse a capire, no, qual è un discorso di fondo dal quale noi possiamo partire, cioè chiedersi, insomma, perché noi a Venezia siamo un po' un terreno di sperimentazione per questa struttura che è la Smart Control Room, proprio per cercare di insomma, contestualizzarla in un contesto appunto un po' più generale e generalizzato, tanto che appunto il lavoro di gruppo, il gruppo studio, insomma, il lavoro di gruppo che appunto ha portato a questo opuscoletto l'abbiamo diviso in 5 parti. Una breve introduzione e un prologo, che sono le parti di cui io proverò un attimo ad accennare, che sono appunto quelle che danno un po' la traccia del ragionamento. Una parte scritta da un compagno che oggi purtroppo non è potuto scendere qua a Roma perché è ammalato, che aveva fatto un po' la parte su come funziona effettivamente la Smart Control Room, che è la parte un po' più tecnica. Poi un'altra parte di cui parlerà Diletta su polizia e giustizia predittiva, che sono comunque legate alla Smart Control Room, e una terza parte fatta da Greta e un'altra compagna su altri esempi simili, in particolar modo Trento e altre città. E poi avrà la parte finale su quello che noi definiamo appunto un po' il contesto internazionale, cioè su come leggere, insomma, questo fenomeno. Noi abbiamo deciso di scrivere questo opuscoletto perché appunto, cioè adesso in qualche maniera abbiamo deciso di prenderci una responsabilità, cioè visto che Venezia, anche, no, per le parole di chi promuove il progetto della Smart Control Room e della Smart City, è un esperimento, cioè Venezia è un avamposto di sperimentazione. E noi quindi appunto partendo da questo presupposto abbiamo deciso di prenderci la responsabilità di socializzarlo, cioè di creare questo opuscoletto proprio per socializzare una questione che appunto per come noi la vediamo in questo momento è una questione centrale sulle forme che diceva Elisabetta in maniera molto puntuale di dominio, di nuove forme di dominio del capitale sulle vite. E quindi appunto noi, insomma, siamo partiti un po' da questo. Noi appunto non siamo di Venezia, ma siamo studenti universitari, studenti e studentesse universitarie di Venezia, e appunto pensiamo che le prime persone colpite dall'introduzione del ticket d'accesso, che per chi non sapesse è una misura che a detta del comune, sì, delle istituzioni, l'introduzione del ticket d'accesso dovrebbe essere quella misura il cui obiettivo, il cui fine è quello di disincentivare il turismo, perché ovviamente dopo anni, decenni, insomma, di turismo di massa, adesso Venezia ne sta pagando le conseguenze, cioè a Venezia da, mi pare, qualche mese a questa parte, per la prima volta nella sua storia, metà delle case sono totalmente vuote, cioè metà delle case di Venezia, cioè il numero di, non mi ricordo bene come era il dato, però il numero di case presenti occupate è minore rispetto al numero di case presenti vuote. Questo proprio per un'immensa dimensione di gentrificazione, cioè Venezia è stata resa un parco giochi per turisti, i prezzi si sono alzati in una maniera inaccessibile per gran parte della popolazione che a Venezia ci viveva, e quindi hanno iniziato ad andarsene. Questo proprio dentro una dimensione di turistificazione e mercificazione della città. Adesso se ne stanno pagando le conseguenze, cioè Venezia appunto è un parco giochi per turisti, e quindi diciamo che l'introduzione del ticket d'accesso dovrebbe essere quella misura appunto che dovrebbe essere un po' una pezza a quanto successo, ovvero agli ultimi decenni di politiche di turistificazione, di mercificazione totale, gentrificazione totale della città di Venezia. Il ticket d'accesso, per come lo stanno sviluppando, non inciderà in alcuna maniera col turismo, cioè il ticket d'accesso dovrebbe essere un po' come la tassa di soggiorno, cioè quando tu vai a Venezia e soggiorni in un hotel, paghi la tassa di soggiorno. Il ticket d'accesso serve a colpire quel turismo giornaliero, cioè il turista che viene magari da fuori Italia e magari si ferma a dormire a Padova e va a fare una gita in giornata a Venezia, dovrà pagare una somma di 5 euro, molto probabilmente, non tanto di più. E anche il turismo, diciamo, appunto giornaliero delle regioni limitrofe, quindi non tanto appunto per disincentivare quel turismo che realmente danneggia Venezia, quindi il turismo dei super ricchi di tutto il mondo che vengono a Venezia pieni di soldi, che sicuramente insomma non si farebbero neanche il problema a pagare 5 euro in più. Quindi ecco, il ticket d'accesso, secondo le parole di chi lo propone, dovrebbe disincentivare il turismo. Secondo noi invece le prime persone che subiranno le conseguenze del ticket d'accesso sono le persone che a Venezia, come noi, ci studiano, le persone che a Venezia ci vivono e che appunto, nel senso, non i turisti, i residenti. Perché? Perché appunto il ticket d'accesso, per un paragone che forse può servire, sarà, adesso ancora non si sa bene come verrà reso pratico, però il ticket d'accesso, per i ragionamenti che stiamo provando a fare noi, sarà molto simile all'autocertificazione, cioè il ticket d'accesso ovviamente è solo per appunto i turisti in giornata, e quindi ci sono un gran numero di categorie esenti come noi, cioè noi ovviamente in quanto studenti e studentesse che a Venezia ci vivono non dovremmo pagare il ticket d'accesso, però comunque dovremmo dimostrare che non dobbiamo pagarlo. Questo cosa vuol dire? Che noi dovremmo comunque dare i nostri dati, cioè dimostrare che siamo studenti che vivono a Venezia, caricando i dati su quella che noi pensiamo che sarà un'applicazione fatta apposta per questo. Dovremmo essere sempre disponibili a dimostrare alla persona che ci ferma e ci chiede il controllo che non sarà fatto dalla polizia, ma sarà fatto da altri organi, cioè non polizia, non carabinieri, ma probabilmente si parla di le guardie private, insomma. Ecco, noi che a Venezia ci viviamo dovremmo essere sempre disponibili a giustificare la nostra presenza. Questa, secondo noi, è la dimensione davvero, davvero allucinante, cioè il fatto che senza insomma aver fatto nulla se non attraversato un territorio, noi dovremmo essere pronti a giustificare la nostra presenza, che appunto è una cosa che appunto penso ricordi molti tempi dell'autocertificazione, quando tu dovevi giustificare la tua presenza in un dato momento, in un dato spazio, in un dato luogo. Questo è un po' per l'idea, perché appunto, nel senso, è ancora una forma molto sperimentale, però insomma è un po' la questione che ci ha fatto partire. Poi noi sull'opuscoletto non parliamo molto di ticket d'accesso, perché appunto, avendo cercato un'impostazione più generale e generalizzabile, concentrarci molto sulla questione locale di Venezia ci sembrava quasi limitante. Magari abbiamo sbagliato, però insomma intanto io ecco, ho un po' spiegato la questione. Per tornare un attimo all'opuscoletto, io faccio la breve introduzione, quindi volevo semplicemente dire qual è stato, cioè qual è il filo rosso, il filo di ragionamento che noi abbiamo provato a seguire. Cioè quello che per noi sta succedendo noi non usiamo tanto il termine passaggio di fase perché è un termine abbastanza complicato. Quello che però per noi sta succedendo è una nuova forma organizzativa, cioè noi appunto nell'introduzione parliamo che abbiamo deciso di analizzare questo fenomeno per andare oltre quella che è la critica più spontanea, cioè perché appunto la smart control room, che appunto è questa stanza del controllo totale di Venezia, che dovrebbe, dopo lei vi spiegherà meglio un attimo il funzionamento, però ecco, già la smart control room ha in sé il nome controllo, cioè la stanza del controllo intelligente, diciamo, mette in maniera esplicita, non prova neanche a nascondere, la dimensione del controllo. Quindi noi abbiamo detto, ma se pure il potere, se pure quella che è la nostra controparte organizzata, non si fa problemi a dire qual è il suo fine, allora vuol dire che probabilmente c'è qualcosa sotto traccia, perché insomma il potere, insomma, lo Stato, il capitale, insomma, ognuno identificherà il nemico come vuole, ma penso che siamo tutti e tutti d'accordo che comunque c'è una controparte organizzata che dice le cose in maniera esplicita proprio per fare un lavoro sotto traccia. E secondo noi, che è quello che proviamo a sviluppare in questo discorso, il lavoro sotto traccia è quello dell'organizzazione, cioè secondo noi la smart control room, più che essere il sintomo di una necessità di controllo, è l'espressione di una volontà di organizzazione della vita. Noi usiamo un termine, cioè una formula che appunto definiamo organizzazione della vita intorno al rapporto tra dispositivi e dati. Cioè, secondo noi la smart control room è il prodotto di questa necessità da parte di quello che sarebbe il sistema capitalista neoliberale in questa fase, secondo noi appunto di capitalismo cibernetico, che si dà per il suo sopravvivere, cioè il suo no, autoriprodursi, cioè nel senso pensiamo che appunto il capitalismo inteso come appunto sistema sociale, sistema di produzione, sistema che si pone alla base dei rapporti comunque tra le persone, in questo momento storico, da diciamo qualche anno a questa parte, insomma, si è trasformato in quello che viene definito capitalismo cibernetico, quindi un capitalismo che grazie alla cibernetica, grazie all'iperpresenza di dispositivi tecnologici, riesce a creare un campo di accumulazione, che è quello appunto dell'estrattivismo dei dati. E quindi in maniera abbastanza di conseguenza riesce, cioè ha la necessità di organizzare la vita delle persone intorno a questo rapporto tra il dispositivo e il dato. Cioè, noi quando parliamo di dispositivi intendiamo quegli strumenti, tipo i nostri telefoni, gli smartwatch, tutta quella rete di apparati di cattura, il cui fine è quello di riuscire ad estrarre dalla vita delle persone, soprattutto delle persone come noi giovani, che siamo socializzati, circondati da questi tipi di dispositivi, che riesce ad estrarre quello che è una nuova moneta, un nuovo dollaro, che sono i dati. Nel senso che le più grandi aziende, no, nel campo di accumulazione capitalistico, da diciamo 20 anni o poco più a questa parte, sono, insomma, accanto forse a quelle del militare, sono comunque quelle che gestiscono i social network, che gestiscono appunto tutto quell'apparato tecnico cibernetico in cui noi ci troviamo comunque innestati e innestate. E quindi nulla, appunto, il senso del discorso che noi abbiamo provato un po' a sviluppare nel lavoretto che stiamo provando anche a presentare è di dire il controllo esiste, non lungi da noi mettere in discussione questa dimensione di controllo, però secondo noi il controllo è sussunto, cioè fa parte di un modello organizzativo del capitalismo, che è appunto un modello organizzativo della vita delle persone. E, appunto, sì, le domande anche che ci poniamo sono appunto, cioè in un momento che penso possiamo riconoscere tutti e tutte di pacificazione sociale, dove non esiste ora come ora un pericolo rivoluzionario, comunque di cambiamento radicale dello stato presente delle cose, ridurre tutto questo nuovo campo di dominio, ridurre questa, diciamo, nuova forma che si dà il potere a una dimensione di controllo, secondo noi rischia di essere manchevole, perché una domanda che noi ci poniamo è, cioè, controllare chi? Controllare cosa in questo momento in cui appunto non esiste una forza, diciamo, abbastanza incapace, insomma, di mettere in discussione il potere. Quindi ecco, per noi, che appunto è il perché abbiamo scritto questo opuscolo, non è tanto il controllo, ma è proprio la necessità di organizzare la vita, cioè di organizzare il modo in cui noi ci relazioniamo, di organizzare il modo in cui noi viviamo i nostri territori, tramite appunto questa possibilità di estrarre costantemente quello che noi produciamo nella nostra vita, quindi i dati, proprio grazie all'iperpresenza di dispositivi tecnologici. E pensiamo che il ticket d'accesso sia esemplificativo, cioè no, che sia l'esempio più lampante, cioè il ticket d'accesso per noi che a Venezia ci studiamo, ci abitiamo, ci lavoriamo, cioè vuol dire che tu per non prendere una multa devi sempre essere attrezzato di un dispositivo tecnologico che ti permetta di dimostrare che tu sei esente al ticket d'accesso. Questo cosa vuol dire? Che cioè tu, persona che studia, lavora e vive a Venezia, devi sedimentare nella tua vita, cioè devi sedimentare l'onnipresenza dei dispositivi tecnologici, cioè no, vuol dire che tu non puoi uscire di casa senza il telefono. È una dimensione, secondo me, abbastanza non innovativa, perché esiste da anni, che però è un passo ulteriore, no? Cioè è proprio un legare lo stare dentro una città, lo stare tra amici, amiche, al bar, così, al telefono, perché può passare qualsiasi persona, cioè no, le persone addette al controllo, a chiederti perché sei lì, e tu devi tirare fuori il telefono e dire io sono qua perché posso, senza pagare, però cioè, nella tua vita si sedimenta l'idea per la quale tu senza il tuo telefono cellulare non puoi uscire di casa, proprio perché, insomma, se no devi pagare, e c'è anche ovviamente una dimensione classista del discorso, perché ovviamente una multa ha sempre una dinamica di classe dentro la sua struttura. E quindi sì, nulla, questo è un po' appunto il filo del discorso. Sì, solo delle note. Noi abbiamo scritto il testo, cioè, anche perché ci piacerebbe molto confrontarci, quindi appunto noi adesso parliamo un po'. Poi, insomma, se ci fosse anche spazio per il dibattito, per insomma, avere anche delle critiche, insomma, osservazioni, ci farebbe molto, molto piacere, insomma. Quindi adesso passo la parola a Diletta, che mi spiegherà forse ecco, un po' meglio cos'è la Smart Control Room e quello che tiene con sé. Allora, innanzitutto, come ha anticipato Andrea, il compagno che si è occupato di questa parte specifica non è presente perché appunto è ammalato. Però proverò comunque a darvi delle informazioni principali. Ovviamente non scenderò troppo nel dettaglio, sia perché è molto tecnico come discorso e quindi toglierebbe tempo magari a passaggi più che possono provocare anche più dibattito, comunque insomma una discussione. In sostanza, a Venezia sono presenti 637 telecamere e anche ulteriori 40 sensori di tipo diverso, ci sono sia infrarossi che contano quindi le persone e in generale si sono concentrati sul conto delle persone. Come diceva prima Andrea, il fatto del ticket di accesso, ovvero avere sempre a disposizione il telefono per uscire di casa sempre con il proprio telefono, già molto, molto importante così, ma inoltre è collegato anche alla Smart Control Room, perché oltre a tutti questi dati raccolti dalle videocamere di sorveglianza, che sono molte, però non sono nulla diciamo, di nuovo, la Smart Control Room implica l'aggancio alle celle telefoniche, ciò significa, da team, ciò significa che qualsiasi telefono, qualsiasi dispositivo che entra nel territorio di Venezia è rintracciabile e i dati che appunto vengono ricavati dalle celle telefoniche vengono mandate alla Smart Control Room. Questa Smart Control Room è anche una presenza ovviamente fisica, si trova nell'isola del Tronchetto. All'interno sono presenti tutti quanti gli schermi che ovviamente mostrano le immagini delle varie telecamere di sicurezza, di sorveglianza e inoltre forniscono tramite l'elaborazione di dati con intelligenza artificiale, software, algoritmi, tutti delle informazioni utili alle 20 persone che lavorano all'interno. Quindi diciamo, il Comune di Venezia giustifica la presenza della Smart Control Room con per il monitoraggio del flusso del traffico stradale navale, flussi di persone, la presenza al territorio comunale e la situazione del meteo, delle maree e in generale condizioni pubblica urbana, ma soprattutto sentiment analysis, che sarebbe l'analisi e l'elaborazione dei dati da parte dell'intelligenza artificiale, che diciamo, dà all'operatore tutte quante le informazioni in base all'apprezzamento di un certo servizio o alla proprio informazioni emotive e quindi anche proprio come si sente, si rapporta una persona a un certo prodotto. Inoltre, appunto, le celle telefoniche, dati vengono raccolti da TIM, che è un importante, diciamo, sì, cioè è un importante, diciamo, giocatore, forse il più importante nelle smart city, come parlerà anche Greta più tardi. E inoltre, appunto, le celle telefoniche, oltre a prendere i dati, il sentiment analysis e tutto quanto, raccolgono anche la provincia, sanno, diciamo, raccolgono anche la provenienza delle varie persone, quindi il dato operatore potrà ricavare la provenienza di una certa persona, quindi da che nazione oppure da che paese viene, da quanto sta Venezia e dove soggiorna e tutto quanto, perché appunto è tutto collegato ai telefoni che per forza si devono attaccare queste celle telefoniche. Quindi non è solo un problema appunto di telefoni magari con internet e tutto quanto, perché si basa sulla SIM e con tutti i dati che sono legati alla SIM. Spero che sia stato abbastanza chiaro, perché appunto è una parte un po' tecnica, quindi al massimo dopo il dibattito. La parte su cui mi sono concentrata io particolarmente è invece quella della polizia predittiva e della giustizia predittiva. Comincerei con un attimo di definizione. La polizia predittiva è questo nuovo sistema di polizia che viene gestito dai dati elaborati da intelligenza artificiale e da vari, quindi, software e algoritmi. Viene dispiegata in diversi modi. E in Italia si parla del progetto Giove, che è stato elaborato all'interno del Ministero dell'Interno e della Difesa, ma in realtà viene proposto come una cosa innovativa, mentre in realtà non lo è, perché in Italia sono già stati sperimentati e ci sono vari altri casi di software che agiscono in collaborazione con le forze di polizia. Ad esempio abbiamo due tipologie, diciamo, principali di questi software: uno è X-Law, l'altro invece è Keycrime. X-Law opera sulla base degli hotspot, quindi l'individuazione di zone calde tramite la catalogazione di vari dati e poi l'elaborazione della macchina tramite il deep learning, che tra l'altro nell'opuscolo è anche presente un glossarietto per aiutare la comprensione e la proprietà di questi termini, che possono essere un po' sì, sconosciuti. Esatto. E appunto individuo queste zone calde in cui è probabile che avvengano certi crimini a data ora e tutto quanto, quindi viene proiettato sullo schermo questa mappa in cui vengono individuate queste... il X-Law è stato testato a Napoli dal 2004, comunque trovate tutta la storia, diciamo, sull'opuscolo. È molto interessante invece il software di Keycrime, che è stato invece provato a Milano, perché è molto più specifico. Infatti agisce tramite il crime linking, questo processo di connessione di vari dati per arrivare proprio a una profilazione criminale, un dato tipico, e quindi che inoltre sfrutta anche un'altra caratteristica che è sconosciuta invece a X-Law, che sarebbe il NLP, ovvero Natural Processing Language, ovvero questa abilità della macchina di capire le informazioni necessarie da un testo come una testimonianza, senza bisogno di una, diciamo, catalogazione da parte dell'umano, ovvero è stata progettata la fase preliminare della progettazione di questo software, in realtà è stata fatta dall'umano, però è l'unica, diciamo, azione che ha avuto aiuto, bisogno dell'aiuto umano, appunto, perché è stata catalogata questa griglia, insomma. Però una volta che la macchina ha capito i dati necessari e utili, è in grado di leggere un intero testo e selezionare da sola le informazioni, appunto, che deve elaborare. Per cui è anche molto presente nel campo della giurisprudenza della magistratura, poiché è in grado di accedere a tutte le varie testimonianze. Insomma, la penso che dico, questi software aiutano le forze dell'ordine poiché riescono a mandare diretti dati, quindi sia il numero, riescono a fornire dei dati specifici sul crimine che sta per avvenire, quindi il numero di persone coinvolte, le armi, l'ora, il luogo e tutto quanto, anche tramite la personalità tramite la connessione e la connessione di anche orari del bus, dei tram, dei negozi e anche il profilo appunto dato del socio-economico del territorio. Ma il ruolo dell'intelligenza artificiale non termina qua, è anche presente la magistratura e infatti si parla di giustizia predittiva nel caso è stata sperimentata anche questa in Italia, in 6 città diverse, poi nell'opuscolo vengono specificate due principali, una ovviamente è Venezia e l'altra invece è Brescia. In ogni caso la giustizia predittiva è forse un fattore molto più inquietante della polizia predittiva, perché se la polizia comunque agisce su una base già più o meno nota, nel senso che alla fine la macchina aiuta l'uomo, però in realtà non è che implementi qualcos'altro, la giustizia predittiva invece fornisce, tramite l'elaborazione dei dati da parte, giustizia, cioè, da parte dell'intelligenza artificiale, consiglia agli avvocati in quali cause occuparsi, per cui suggerisce quale causa sia più facile da risolvere oppure da vincere, insomma. E inoltre riesce anche, è stata anche utilizzata per avere proprio la soluzione di una certa causa. È stata utilizzata principalmente nel campo della magistratura, del lavoro, delle imprese, a Venezia nello specifico per le cause dei licenziamenti per giusta causa dal 2019 al 2021. E, comunque l'andamento che provoca la giustizia predittiva è proprio quello di trasformare la condizione dell'imputato, che è sempre stata innocente fino a prova contraria, in un colpevole fino a prova contraria, perché il ruolo dell'imputato da questo momento in poi diventa proprio quello di dimostrare che una macchina ha torto. E quindi ovviamente, dato che viene sfruttata l'immagine della macchina come non influenzabile tutto quanto, perché è scientifica, è basato su teoricamente questi algoritmi che la maggior parte della popolazione nemmeno sa cosa siano e non sa neanche come vengano sviluppati. E quindi l'idea generale della popolazione è che questo sia un metodo scientifico, un metodo appunto influenzabile, che può solamente aiutare le persone e gli imputati, mentre ovviamente non è così, perché gli algoritmi vengono progettati dall'uomo, quindi ovviamente ci sono tutte le caratteristiche che l'uomo mette nel algoritmo. Insomma, spero che anche... è stato un po' confusionario forse. E nulla, passo la parola a Greta. Ciao a tutti e a tutte, appunto io e Virginia, un'altra compagna del collettivo che non è scesa a Roma, ci siamo occupate della parte sulle altre smart cities d'Italia e abbiamo fatto delle ricerche su dei casi. Ovviamente era impossibile trattarli tutti perché sono numerosi, appunto il gruppo studio è stato di un mese. Abbiamo fatto delle ricerche su Cairo Montenotte, che è un paesino in provincia di Savona di 13.000 abitanti, quindi veramente cioè, neanche una grande città come può essere definita, in parte Venezia, comunque tutte le altre capoluoghi nei quali sono presenti dei sistemi di videosorveglianza e di telecamere. Appunto Cairo Montenotte nel 2022, in questo paesino è stato instaurato un sistema di videosorveglianza, quindi una rete di telecamere di monitoraggio i cui dati raccolti vengono elaborati in tempo reale da appunto algoritmi in collaborazione con la Olivetti sempre gestiti da Team, che è l'azienda appunto che si prende carico della maggior parte. Terza gestita da Soros. Esatto, che si prende carico tra l'altro della maggior parte dei, di questi sistemi in Italia. E appunto la, diciamo, il caso, cioè la ragione per cui abbiamo analizzato questo caso di questo paesino veramente piccolo, che si è ritrovato questo sistema di videosorveglianza, è perché ci è sorta una domanda spontanea, ovvero perché serve un sistema di sorveglianza in un paesino non c'è, dove non ci sono flussi turistici, dove non ci sono appunto conflittualità particolari per cui serve un monitoraggio della città, del, sì, della città. E quindi per noi, diciamo, è abbastanza evidente che questa è una, diciamo, questo accordo tra il comune e Team è una sorta di, cioè una tendenza di sperimentazione nazionale che mira appunto non solo al controllo degli abitanti, perché fondamentalmente gli abitanti di, questo, di Cairo Montenotte non hanno nessun motivo per cui essere controllati, ma è appunto una misura che mira a appunto l'organizzazione, la riorganizzazione delle vite umane, dei dati umani e della quotidianità delle persone intorno a un certo tipo di dispositivo, un certo tipo di controllo. E un'altra città che abbiamo citato, che abbiamo trattato, è Assisi, che nel 2018, in cui nel 2018 è stato avviato il progetto chiamato Destinazione Assisi. E questo progetto è sempre sviluppato da Team e Olivetti, si occupa della rilevazione delle presenze turistiche nella città. Quindi praticamente quello che succede è che sono sempre implicate le SIM, quindi si parte da queste SIM dei telefoni cellulari che si collegano alla rete Team per arrivare ad ottenere dei dati come insomma provenienza geografica, fascia di età, sesso, luoghi visitati di appunto dei turisti che visitano la città di Assisi. E questo forma un identikit quantitativo e qualitativo del flusso di turisti che attraversa la città, e questi dati vengono utilizzati quindi per creare un sistema di pianificazione, di strategie di marketing per orientare comunque la città in una determinata direzione in base a quelli che vengono rilevati come gli interessi maggioritari da un certo tipo di turismo. E quindi strutturare la città anche da un punto di vista, diciamo, urbano secondo esigenze, queste esigenze che vengono appunto identificate. E quindi diciamo che questo va a favore di insomma, imprenditori, amministratori che potranno connettersi alla piattaforma di Team Enterprise, scusate, di Team City Forecast, per avere accesso a questi dati in modo costante e quindi poter effettivamente monitorare tutto ciò. E questo insomma è il caso di Assisi. Poi abbiamo trattato il caso di Como, che praticamente nell'agosto del 2019 sono state installate 16 telecamere per la videosorveglianza dotate di riconoscimento facciale, quindi sulla base di dati biometrici e rilevamento di quello che chiamano loitering, ovvero bighellonaggio, cioè assembramento in varie gruppi di, insomma, persone che fanno bidellonaggio. Bidellonaggio. E questo il sistema che era stato installato a Como era gestito da, cioè era in collaborazione tra il comune di Como e questa volta non TIM ma Huawei e A2A Smart City SPA. E le motivazioni che erano state fornite dal comune riguardo l'installazione di un sistema di questo tipo, che si basava proprio sul riconoscimento facciale delle, insomma, delle persone che erano dati, dei dati raccolti, erano molto vaghe, facevano riferimento a una situazione di insicurezza nei cittadini, nonostante comunque a Como si stia registrando una diminuzione dei vari dati relativi ai reati. E sto usando il passato perché alla fine del 2019 questo sistema è stato inaugurato nell'agosto del 2019. Alla fine del 2019 c'è stata un'inchiesta fatta da Wired, dei giornalisti, e il garante della privacy ha dichiarato questo sistema come mancante di basi giuridiche per il riconoscimento facciale, e quindi ha richiesto al comune la disabilitazione, che è arrivata nell'aprile del 2020, e quindi attualmente questo sistema è stato disabilitato nel comune di Como. Scusa, quello delle telecamere riconoscimento facciale? Esatto, sì. Sì, perché non, cioè, effettivamente il riconoscimento facciale è illegale attualmente, cioè non, i dati che vengono raccolti tramite le telecamere devono essere anonimizzati, e questo vabbè, dopo ne parleremo anche per Trento. Quindi insomma, per Como quello che ci premeva era appunto sottolineare come c'è stato un provvedimento da parte del garante della privacy nel caso di Como, che ha dichiarato appunto che questo tipo di telecamere non rispettava le normative sulla privacy, però i casi di il caso di Venezia ad esempio non è stato dichiarato come mancante di basi giuridiche solo perché non si basa sul riconoscimento di dati biometrici, cosa che si può benissimo, un passaggio che si può benissimo saltare tramite, appunto, dissimulandolo dietro altri mille passaggi molto più tecnici, molto più specifici, che comunque li fanno risalire alla persona, all'identità della persona che si sta effettivamente monitorando. L'ultimo caso che abbiamo analizzato è quello di Trento. Trento che diciamo è sede di vari progetti europei, che non fanno parte dei progetti della TIM, e Trento è, cioè, da quello che abbiamo visto, è veramente diventato una città pilota per la sperimentazione di queste tecnologie avanzate, nel senso che nel 2021 sono state installate 600 telecamere e microfoni a Trento per la videosorveglianza sia, insomma, audio e visiva, e dei sensori per la georeferenziazione dei cellulari. Il progetto è il progetto Marvel, finanziato dall'Unione Europea, che vede 17 partner all'interno dell'Unione Europea, ed è inserito in un programma che si chiama Programma Horizon 2020, ed è in collaborazione con, cioè, tra i vari partner di questo progetto risultano sia il Comune di Trento che la Fondazione Bruno Kessler, che appunto questa azienda informatica che ha anche un ruolo nell'Università di Trento e che è diciamo l'azienda a cui vengono trasmessi i dati ottenuti dalle telecamere. Questi dati video e audio, a questi dati vengono applicati tecniche di intelligenza artificiale sviluppate appunto da questa azienda informatica per quello che si legge sia sul sito del comune che sul sito del progetto è che viene appunto queste tecniche vengono utilizzate per sviluppare analisi descrittive e predittive che facilitano la risposta delle forze dell'ordine in eventuali situazioni di criticità che vengono di tipo ovviamente criminale, che vengono descritte come adunate non pacifiche, come eventi criminosi, furti, microcriminalità, eccetera. La cosa inquietante è che tramite il progetto Marvel queste analisi sono anche di tipo predittivo, ciò significa che viene fatta una predizione su situazioni che possiamo chiamare di guerriglia urbana, cioè situazioni in cui avvengono allo stesso tempo atti criminosi in varie diciamo, località all'interno della città dove sono instaurate queste telecamere e microfoni. E poi sul progetto Marvel c'erano state delle critiche erano state sollevate queste questioni sul trattamento dei dati personali, perché sul sito del comune, sul PDF che riguarda il trattamento dei dati personali, si legge che i dati vengono comunicati alla Fondazione Bruno Kessler, appunto fondazione partner, e possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati entro i 6 mesi dalla raccolta. Dopo i 6 mesi i dati vengono cancellati o anonimizzati. Questa cosa aveva sollevato polemiche e diciamo il sindaco di Trento e il presidente della regione avevano detto che i dati erano anonimizzati alla fonte, avevano fatto delle dichiarazioni un po' confuse, il che insomma sottolinea anche quanto ci siano delle discrepanze cioè, tra quello che si dichiara e quello che poi viene si legge effettivamente, perché è tutto materiale che noi abbiamo reperito dal sito del comune, quindi è insomma una cosa pubblica, fruibile a tutti, da tutti. E quindi poi un altro aspetto è che il progetto Marvel, uno degli obiettivi del progetto Marvel è sempre appunto tenendo in mente la questione dell'organizzazione sociale, della riorganizzazione sociale, è uno di questi obiettivi è la familiarizzazione dei cittadini alle tecnologie chiamate di big data, cioè che raccolgono quantità e flussi di dati enormi. E quindi la familiarizzazione dei cittadini a queste tecnologie per accelerarne e quindi normalizzarne l'impiego tramite le università, quindi tramite anche la formazione, perché tra i 17 partner del progetto ci sono anche 3 università in cui praticamente il controllo di questi flussi di dati enormi, l'organizzazione di questi dati tramite intelligenza artificiale e algoritmi viene inserito all'interno di programmi educativi o magari programmi più specifici di ricerca o di dottorato, in modo appunto da normalizzare, far diventare quotidiano e comunque oggetto di ricerca e quindi conformare in un certo senso gli studenti a un nuovo tipo anche lì mercato del lavoro, dove i nostri dati, o i dati comunque che vengono raccolti, vengono appunto utilizzati come un po' il nuovo oro e la nuova materia, la nuova sostanza che deve essere intorno alla quale si costruisce un nuovo tipo di mercato del lavoro e anche di business, ovviamente. E... passo la parola a Andrea. Ma io ho scritto l'ultima parte, quella che abbiamo definito Chip War, guerra delle risorse, estrattivismo e Chip War, è una parte, diciamo, che vuole un po' contestualizzare a livello internazionale, cioè i rapporti tra potenze capitalistiche, ed è una parte, penso, non troppo, cioè, appunto, essendo molto generale, non so quanto sia interessante a spiegare, quindi magari la teniamo da parte se dopo, cioè, perché appunto a noi piacerebbe un attimo tirare le fila del discorso e lasciare magari spazio al dibattito, quindi ecco, magari quello, se poi il dibattito non parte, magari aggiungo due paroline, però il senso di fondo del discorso nella quarta parte è appunto che il discorso che noi proviamo a fare di organizzazione della vita intorno al rapporto tra dati e dispositivi si lega in maniera, diciamo, a doppio filo a quella che è una guerra internazionale per le risorse, perché ovviamente i dispositivi che appunto noi definiamo come apparati di cattura per il nuovo oro, ovvero i dati, i dispositivi appunto basano il proprio funzionamento su quelle che sono i minerali delle terre rare, che vabbè, terre rare appunto non è tanto il fatto che siano poche, ma il fatto che siano concentrate in poche aree del globo. Questi minerali, queste terre rare, sono alla base del funzionamento di dispositivi tecnologici, di dispositivi militari, armi e anche dispositivi energetici, quindi insomma rappresentano un mattoncino, un tassello fondamentale per quello che è l'accumulazione capitalistica di questa fase che noi stiamo attraversando. E quindi secondo noi nel contesto internazionale quello che sta succedendo è un allineamento, ma quella parola lì che non riesco a dire, delle alleanze tra potenze intorno all'accesso a queste risorse, nel senso che lo scontro globale che secondo noi si sta verificando soprattutto tra Stati Uniti e Cina si gioca proprio per ridefinire le alleanze per permettere un costante accesso a quelle risorse. Quindi ecco, diciamo il potere, l'Unione Europea con i suoi bandi per l'innovazione tecnologica, per la transizione energetica, tutta quella retorica dell'evoluzione green, per così dire, lega in qualche misura tutto un discorso alla guerra, no? Cioè, perché quella, cioè, diciamo, la transizione ecologica, la transizione tecnologica, che vabbè, di ecologico non c'hanno nulla, insomma, questo penso sia evidente, legano il discorso alla guerra, perché appunto per accedere a quelle risorse nel contesto che stiamo vivendo, quindi quello appunto di un restringimento della globalizzazione, cioè l'accesso è definito da rapporti di guerra, quindi noi praticamente creiamo un'organizzazione della vita che deve passare in maniera inequivocabile e in maniera, insomma, diretta per la guerra. Quindi ecco, questo ecco, vabbè, magari dopo se può interessare anche questa parte la spiego un po' meglio, perché vabbè, appunto la parte, insomma, di analisi geopolitica, cioè lascia il tempo che trova, perché ovviamente parlare della Cina, degli Stati Uniti, dall'Italia, da Venezia o Trento, ovviamente ha i suoi limiti. Bisognerebbe parlarne un po' di più, forse. Sì, sì, bravo. Cioè, c'è gente molto più esperta, insomma, che potrebbe farlo, insomma, quindi. Io ci tenevo a dire solo due passaggi sul ticket d'accesso, che mi sono dimenticato prima, per poi magari, così almeno c'è anche un'idea un attimo più generale sulla questione. Allora, prima di tutto, visto che comunque, insomma, come ha detto Elisabetta, c'è una condivisione di analisi, cioè è ovvio, noi prima non l'ho detto e mi è venuto in mente adesso, quindi Ci tenevo a dirlo che c'è una retorica emergenziale che sta alla base del ticket d'accesso, cioè come l'emergenza Covid ha portato a una forma di governo che sappiamo, ma cioè penso siamo tutti d'accordo su cosa è stata quella fase, la retorica dell'emergenza per il turismo è quella giustificazione alla quale non si può essere in disaccordo, cioè è impossibile dire all'emergenza turismo noi non abbiamo nulla da proporre, no? Cioè è proprio la retorica dell'emergenzialità, cioè creare un'emergenza e dare una risposta che con l'emergenza non c'è nulla a che fare. Cioè, il meccanismo è questo, no? Ed è un meccanismo che secondo noi durante il periodo pandemico insomma è stato sperimentato, con Venezia viene implementato, insomma col futuro anche del discorso climatico comunque assumerà una centralità nel discorso, cioè nel senso che con tutta una retorica emergenzialistica, ad esempio sulla questione del cambiamento climatico, verranno fatte passare, verranno creati nuovi tipi di governo proprio su una retorica emergenzialistica, quindi è abbastanza importante secondo noi mettere anche al centro la questione dell'emergenzialità come un prodotto fittizio, cioè per il quale c'è chi produce l'emergenza è lo stesso che poi propone la risposta, è un cortocircuito, è il funzionamento logico del capitalismo, e quindi il contributo d'accesso è esemplificato, noi purtroppo, cioè appunto questo ragionamento ci è venuto a posteriori da quando aveva scritto, quindi non l'abbiamo aggiunto nell'opuscolo proprio perché appunto è un lavoro in divenire quello che noi vogliamo provare a fare, quindi partendo da questo testo molto molto corto, cioè questo testo, ma vorremmo provare ad andare avanti e sviluppare altre questioni. E poi un altro passaggio che mi sono dimenticato di dire sull'introduzione del ticket d'accesso è quel passaggio tra accumulo di dati anonimizzati, cioè adesso appunto come spiegava bene Diletta prima, quando tu entri nel territorio della città di Venezia, il tuo telefono si collega a una cella telefonica che poi grazie alla presenza di telecamere e alla presenza di contapersone, cioè di sensori contapersone, insomma c'è questo grande accumulo di dati, il ticket d'accesso farà un passaggio, cioè un accumulo di dati anonimi, quindi appunto si parla di vaccino di dati, non mi ricordo il termine esatto con il quale il compagno ha descritto la questione, insomma. Però è comunque un passaggio di... cosa che dici? Vabbè, comunque c'è proprio un termine esatto, dopo magari lo peschiamo. Però appunto, è un'accumulazione di dati anonimizzati. Il ticket d'accesso, il contributo del ticket d'accesso è il passaggio di disanonimizzazione dei dati, cioè nel senso se io adesso entro a Venezia e il mio telefono si collega e sanno da dove vengo e quanto mi fermo, col ticket d'accesso io dovrò produrre, cioè io dovrò dare in maniera volontaria i miei dati, proprio per il discorso che avevo fatto più o meno all'inizio di insomma, essere esenti al ticket d'accesso. Questo è un passaggio appunto interessante, poi è un passaggio che già viene superato, tipo su un discorso di azioni criminali, nel senso che i dati nel momento attuale a Venezia vengono accumulati in maniera anonima, però la dirigente della polizia locale ha la possibilità, la dirigente della polizia locale e il sindaco di Venezia hanno diciamo un lasciapassare che permetta di disanonimizzare dei dati aggregati in maniera anonima, quindi dicono è stato fatto quel reato al ponte di Rialto, noi abbiamo la possibilità di disanonimizzare tutti quei dati delle persone presenti lì per beccare il criminale. Quindi in realtà sarebbero visibili, però sì, vengono criptati. Esatto. Nel momento in cui vogliono... Esattamente, cioè appunto la questione è adesso sono anonimi fino a che non lo decide qualcuno. Dati, esatto. Cioè, quindi una grande balla. Sì. È una balla. Io non ci credo. Sono anonimi, disanonimi in potenza. Cioè, fino a che tu... è il solito discorso. Cioè, tipo, tu non fai nulla di male, quindi cosa c'hai da temere che ti controllano? Che è quella retorica del governo, che vuole un determinato tipo di governabilità. E una quindi domanda, quante persone siete nel collettivo? Non lo sapete anche noi. Sette. Speravamo di più, e qua siamo pochi. No, siamo di più, sempre da pochi. E molti stanno zitti. Scusa, ti volevo chiedere, prima hai accennato a un restringimento della globalizzazione. Sì. Ma puoi spiegarlo un po' meglio? Sì. Posso fare anche senza il microfono, se sento uguale. Certo, per cui grazie. Sì, diciamo che forse il restringimento era farlo un po' riduttiva, nel senso che vedendo più o meno quello che succede a livello globale, insomma, diciamo che quello che può essere definito un po' l'asse portante della globalizzazione è stato il rapporto tra Stati Uniti e Cina durante quella che è stata la fine del mondo diviso tra Stati Uniti e il blocco sovietico, cioè nel mentre in cui c'era gli Stati Uniti e il blocco sovietico, la fase di globalizzazione era definita appunto da una fase comunque prettamente imperialista, cioè di imperialismo proprio armato. Adesso appunto proprio, cioè, insomma, sappiamo che appunto comunque la Cina ha preso accordi con gli Stati Uniti d'America, insomma, si disallineò rispetto all'Unione Sovietica, e quello è stato un po' l'asse che ha tenuto in piedi quello che è la globalizzazione, diciamo, anni 80, 90, 2000, insomma, quindi nella sua fase neoliberale, neoliberista, più sfrenata. Diciamo che è da appunto un po' di anni che si può cercare di entrare a vedere, poi appunto, ripeto, è un discorso abbozzato, nel senso abbastanza complicato, proprio perché implica un'analisi geopolitica totale che noi abbiamo provato un po' ad abbozzare per lasciare degli spunti, insomma, è un lavoro appunto in divenire. Però ecco, secondo noi, cioè, si può vedere una serie di dinamiche che sono la guerra delle sanzioni, il reshoring, friendshoring, offshoring, che definisce le politiche degli Stati Uniti nei confronti della Cina. Cioè, su ad esempio la guerra dei brevetti, nel senso che appunto nel nuovo scontro per l'accumulazione capitalista, quindi appunto quello dei dispositivi e della creazione di quelli che sono i microchip alla base del funzionamento dei dispositivi, c'è una vera e propria guerra dei brevetti, nel senso che gli Stati Uniti d'America, non mi ricordo se nel 2023 o comunque di recente, hanno proprio creato un insieme di sanzioni e un insieme di limitazioni per l'accesso ai brevetti, nel senso che i microchip sono costruiti in America e poi ovviamente per essere costruiti da altre parti devi passare tramite il brevetto. E allora adesso non mi ricordo bene perché l'avevo letto tempo fa e non l'abbiamo messo in opuscolo per non essere troppo logorroici. Ecco appunto, gli Stati Uniti d'America hanno creato questo pacchetto di sanzioni o queste limitazioni di accesso per tutte quelle grandi aziende tecnologiche cinesi ai brevetti, nel senso che gli Stati Uniti d'America, perdendo comunque, cioè non perdendo, però trovandosi comunque anche loro in una fase abbastanza di crisi, no? Con il ritiro delle truppe dal Medio Oriente, con anche la guerra in Ucraina, insomma il conflitto russo-ucraino, insomma, vedono insomma una sottospecie di rischio del dominio mondiale, che non è sostituibile, non è che la Cina si pone come nuovo polo della globalizzazione, però gli Stati Uniti d'America appunto per come stanno operando sulle catene di valore, sulle catene di estrazione, insomma dimostrano una certa fragilità, nel senso che anche tutte le politiche di reshoring, cioè di avvicinare a sé tutte quelle catene di approvvigionamento e catene di valore, cioè quelle catene insomma che assicurino la messa a valore e quindi insomma il compimento del ciclo capitalistico a sé, è secondo noi sintomo, cioè nel senso se negli anni precedenti comunque c'era un rapporto diciamo costruttivo tra Stati Uniti d'America e Cina, sempre comunque ovviamente definito dagli Stati Uniti come dominio mondiale, adesso appunto gli Stati Uniti con le sanzioni alla Russia, con appunto la limitazione dell'accesso ai brevetti per la costruzione di microchip alla Cina, con l'avvicinamento a sé delle catene di approvvigionamento e di valore, con la creazione di nuove alleanze, ad esempio gli Stati Uniti d'America hanno provato a sviluppare un sistema di alleanze tra, mi pare, India, Australia e non mi ricordo quale altro paese, però proprio una catena cioè proprio geograficamente una catena che si pone molto vicina alla Cina proprio per la questione taiwanese. Cioè gli Stati Uniti e d'America stanno cercando di sviluppare un sistema di alleanze di prossimità nei confronti della Cina che insomma entra in funzione nel caso in cui la Cina alzi il tiro nei confronti di Taiwan, perché Taiwan sappiamo benissimo che essere Taiwan è il centro mondiale della produzione di microchip, cioè Taiwan è dove ci sta la maggior parte della produzione. Quindi questi secondo noi non sono sintomi della fine della globalizzazione, ma sono sintomi comunque di un cambiamento di rapporti tra potenze, e la guerra comunque tra Russia e Ucraina, è anche comunque insomma si può anche leggere comunque in un terreno di prova per gli Stati Uniti per riavvicinare a sé l'alleato europeo sotto forma della Germania. Cioè il fatto è che comunque la Germania stesse prendendo accordi con la Russia, quindi in qualche maniera si stesse quasi allontanando da quello che era l'alleato storico subordinato come è l'Unione Europea, l'Europa in sé, rispetto all'alleato americano. Lo scontro tra Russia e Ucraina secondo noi insomma può anche essere letto come un terreno di prova per l'alleanza storica tra Stati Uniti e Europa, no? Come insomma un tentativo americano di riavvicinare a sé quello che è l'alleato storico e quindi l'Unione Europea, soprattutto a guida tedesca. Sì, poi appunto nel senso questo era un po' un tentativo, cioè molto, molto difficile da riassumere. Noi comunque abbiamo citato qualche libro da cui prendiamo spunto, cioè due libri in particolare, uno che si chiama La guerra capitalista e uno scontro tra Stati Uniti e Cina, cioè Stati Uniti e Cina allo scontro globale, che sono due libri che hanno un po' fatto da ispirazione a questa analisi, però ripeto è una parte abbastanza, cioè molto complessa, che noi ci tenevamo a scrivere per cercare di restituire non tanto un'analisi sulla globalizzazione, che quella ovviamente non ci abbiamo gli strumenti, ma tanto cioè più per dire che comunque l'Unione Europea, l'Italia, i vari comuni che investono soldi, che fanno bandi, fanno PNRR, no? Per questa innovazione tecnologica, stanno legando questa innovazione tecnologica a un contesto di guerra. Cioè, secondo noi questa è un po' la questione principale, cioè il fatto che innovazione tecnologica in questo momento, in questa fase storica, è la guerra. Cioè, nel senso, penso sia evidente a tutti e a tutte che ci sia un clima di guerra, guerreggiata in ogni, da ogni parte, no? Cioè il conflitto comunque, cioè l'escalation del conflitto, cioè della situazione tra Israele e Palestina, col genocidio del popolo palestinese, appunto il conflitto in Ucraina, cioè sono secondo questa analisi comunque un sintomo di una crisi, di quello che è stato un rapporto comunque fondativo di una parte del periodo della globalizzazione, insomma. Questo. Non so se ho risposto. Sì, sì. Però sì, insomma, è un po' chiaro. Questo non è niente in confronto a quello che arriverà dopo. No, sì, esatto. Cioè, appunto, il discorso è proprio questo. Cioè. È solo una passeggiata. Sì, sì. Bene, domande? Qualcuno ha... No, io direi che se a questo punto mi sembra chiaro che stanno per, cominciando da quando parlo da Venezia, da Trento, mi metto tutte cose davanti, sì, a me. Sì, là, sì, dai, dai. Vabbè, insomma, c'è un processo di controllo di tutti da parte del potere, giusto? Questo mi sembra. Sì, sì, sì. Ecco. E quindi tecnologicamente non penso che noi lo possiamo fermare, perché quello lì registrano, no? Poi mettono le cose che non lo possono fare vedere, che lo nascondono, però quando vogliono lo pigliano. Quindi loro archivano tutto, noi siamo tutti sotto controllo, i nostri volti ce l'hanno tutti. Quindi c'è un'aggressione tecnologica del potere con altri mezzi rispetto ad altri tempi. Cioè, in un tempo che avrebbero bisogno di mettere un esercito per controllarti, 10 poliziotti ogni strada, adesso basta che cioè, ti obbligano a portare il telefonino come nel caso di Venezia e già sanno dove sei, con chi fai, che stai facendo, eccetera, eccetera, poi si incrociano i dati. Allora io dico una cosa, a sto punto questo mi sembra assodato. Noi che possiamo fare incontro per neutralizzare o per controbattere, per riacquistare diciamo potere umano, diciamo, perché a questo punto arrivando pure all'intelligenza artificiale noi siamo controllati da chi vuole, poi chi c'ha in mezzo in mano e noi non contiamo più niente. E questa forza che ci controlla non ha manco volto, perché alla fine non ci sono responsabili, comincia ad essere una specie di grande fratello di Orleana a memoria, diciamo peggio di quanto lo immaginavamo, che sta per globalizzarci e annullarci pure come umanità, no? E allora direi, si incomincia a pensare come contrastare questo, perché tecnologicamente mi pare che non lo possiamo fare. E allora come si potrebbe fare? Io faccio la domanda, poi c'è pure qualche risposta. Tranquillo, no, io volevo ricollegarmi a questo ultimo intervento e, premettendo che ho apprezzato moltissimo il vostro opuscolo, che ho letto anche due volte, e, perché secondo me offre degli strumenti teorici e di analisi molto utili per insomma chi vuole quantomeno appunto da un punto di vista teorico formarsi per combattere l'esistente. Però sulla questione della scissione tra controllo e diciamo interesse economico, io ho un dubbio. Perché secondo me da un punto di vista teorico, politico, scindere questi due concetti ci disarma un pochettino. Perché se è vero, questa è un'ovvietà, cioè che, come dire, il capitalismo ci colonizza totalmente e quindi l'utilizzo dei dispositivi e quindi internet è in assoluta continuità con il progetto del capitalismo di colonizzare tutta la nostra vita e quindi di accumulare capitale da tutta la nostra vita. Prima poteva essere semplicemente l'utilizzo del tempo libero, cioè il fatto che non solo tu quando lavoravi eri schiavo del capitale, lo eri anche dopo, sia fisicamente con per esempio tutto il dopolavoro delle fabbriche eccetera. Adesso non c'è nemmeno più bisogno di questo servizio, perché tanto quando tu esci da lavoro o anche quando sei a lavoro stesso stai accumulando dati, stai dando dati e quindi stai dando oro. Quindi questo elemento mi sembra ovvio e in totale continuità, però l'elemento che non è in continuità con il prima, e con prima mi riferisco in particolar modo alla fase diciamo socialdemocratica del capitale, almeno in Occidente, quindi dalla Seconda Guerra Mondiale più o meno agli anni 70, 80, eccetera, è la torsione autoritaria di tutto questo. Perché questa torsione autoritaria mina e in qualche modo mette in risalto la fragilità dei presupposti teorici della democrazia cosiddetta e quindi del capitale. Il fatto, l'importanza della pandemia, secondo me, risiede in questo passaggio, cioè nel fatto che da un momento all'altro, in due settimane, il mondo che noi pensavamo essere scontato può improvvisamente crollare. crollando rivela il vero volto, perché insomma chi ha una capacità di lettura del reale sa bene che quella violenza esercitata contro tutti durante la pandemia è esercitata costantemente non contro tutti ma contro i più marginali, eccetera. Ma nel momento in cui la democrazia toglie la maschera e dice guardate che qua non si scherza e basta veramente poco perché questo accada, vuol dire che c'è un passaggio e questo passaggio è reso possibile dai dispositivi e da internet, perché in un'altra epoca non avrebbero potuto operare questo tipo di violenza in maniera così capillare. Violenza che però si fonda su una collaborazione da parte nostra, diciamo, no? Quindi l'elemento del controllo o sorveglianza per chi vuole fare militanza è, secondo me, molto importante, perché è un elemento che va a toccare sia l'emotività di ognuno di noi, ma anche il presupposto su cui si fonda questo mondo. Chiudo facendo un esempio: quando abbiamo con l'Assemblea portato avanti questa campagna che stiamo comunque continuando a portare avanti sulla ZTL a Roma, in realtà la sensazione che ho avuto io parlando con le persone non era di una impreparazione rispetto a questo, ma di una preparazione molto consapevole. Cioè non andavano a dirti vabbè ma qua devo comprare la macchina nuova, devo pagare perché mi faranno le multe eccetera, andavano a dirti questo è un progetto politico, e questo mi ha fatto pensare, perché certe volte noi militanti pensiamo che tendiamo a leggere, diciamo, questa poca risposta, questa poca reazione da parte delle classi popolari o degli esclusi con un velo con un filtro di insofferenza e pessimismo. In realtà, secondo me, da un punto di vista di analisi non è così, e quindi di rottura di un patto sociale di cui tu prima parlavi giustamente, non è che siamo così distanti da un'ipotesi, diciamo, di risposta. E questo secondo me lo si vede anche con la partecipazione al voto e anche da altri aspetti. Quello che manca è il dotarsi di strumenti che possano attaccare, che possano poi portarti alla mobilitazione. E quindi, secondo me, ecco, per tornare alla critica che ho fatto all'inizio, che non è una critica ma è una riflessione che faccio sulla base di ciò che avete scritto, è che secondo me io non posso, se io parlo con una persona, sì, gli posso dire guarda è quando tu stai su internet, guarda è quando tu stai, ti stanno facendo, tu stai lavorando per loro fondamentalmente, no? Cioè tu stai producendo capitale per loro anche se non lo sai. Io glielo posso dire, ma questa cosa non avrà mai l'impatto, esatto, di un Green Pass o di sapere che tu qualsiasi cosa fai puoi essere tracciato, puoi essere monitorato. E aggiungo un'ultima cosa, questo soprattutto in un paese come l'Italia, in cui la gente ha un rapporto schizofrenico con lo Stato e l'autorità, perché non si vede rappresentata da quello, e quindi ed è abituata a cospirare in un modo che certe volte diventa solipsistico, totalmente individualistico, però è abituata a cospirare. Se gli viene meno la possibilità di cospirare, secondo me lì qualcosa scatta. Per cospirare intendo anche non pagare le tasse, cioè questo, e l'Italia si è fondata su questo sistema, cioè sul fatto che la gente giustamente non ha mai pagato tutte queste tasse, perché altrimenti non ce l'avrebbe mai fatta a vivere. Quindi ecco, vorrei provare a riflettere su questo elemento degli strumenti che noi possiamo dotarci per agitare la questione. E non più. No, ne ho tanto da dire. Posso? Presento, mi chiamo Andrea Librogioia e ho apprezzato veramente tantissimo, ho letto anche io L'Opuscolo e mi sembra fatto molto molto bene. E soprattutto la cosa che mi fa piacere è vedere dei giovani, ve l'ho detto già quando siete arrivati, perché purtroppo, ahimè, siamo in grande difficoltà, perché io ho seguito tanti movimenti e tanti tipi di lotta che ci sono stati negli ultimi 30 anni in questo paese. E vi assicuro che, nel senso, la mobilitazione così bassa nel numero di giovani che partecipano alla lotta sociale è drammatico in questo periodo storico, dove ne avremo assolutamente più bisogno, perché quello che stiamo vivendo oggi non è stato mai vissuto nella storia. Io vorrei rispondere però al fatto che ci dimentichiamo il fatto che a livello globale, per questo dicevo che è così importante invece comprendere quello che sta accadendo nel mondo per capire quello che sta accadendo in Italia, purtroppo c'è un depopolamento in atto. Cioè, questa è una cosa che purtroppo è stata già abbastanza assodata da chi ha orecchie e occhi per capirlo, però ecco, molti non vogliono neanche accettarlo, anche tra di noi, anche tra quelli più reazionari, perché purtroppo quella è un'altra drammatica realtà. Il discorso dei vaccini, così chiamati da, diciamo, da quelli meno addetti ai lavori, purtroppo era un discorso di avvelenamento, ma faceva parte di tutta un'altra serie di avvelenamenti che portavano sempre allo stesso risultato, ossia il depopolamento. Allora dobbiamo chiederci, tornando al discorso di prima, perché c'è questo depopolamento in atto? Perché non gli serviamo più. E il discorso, la risoluzione è data tu prima, perché c'è un discorso tecnologico in atto. E la tecnologia è la nuova era. La disumanizzazione è la nuova era. La disumanizzazione che cosa prevede? Prevede che le macchine sostituiscano l'uomo. E questo creerà grandi stati di disoccupazione. Lo stato occupazionale mondiale è il dato principale che dobbiamo sempre controllare. Ed è quello che smentisce poi di fatto qualsiasi politico che voglia fare politica, ma realmente non fa mai politica, perché mente, scusatamente, perché la prima cosa che promettono è l'aumento dei tassi occupazionali, ma non potrà mai avvenire. Se guardate, nell'ultimo trentennio sono stati sempre in continuo calo. Prima ci sono stati i passaggi di transumanesimo, ora stiamo andando già in un'altra fase, siamo già entrati, che si chiama postumanesimo. Avendo il discorso delle macchine che avanzano, tante persone che perdono il lavoro diventano pericolose perché rischiano di unirsi. Il risveglio è vero, ci sarà. E per rispondere a te, quando abbiamo iniziato la serata qui, purtroppo non abbiamo le forze ancora numeriche per poter dare una risposta come magari vorremmo dare rispetto a chi ci vuole sottomettere, addirittura ci vuole togliere la vita. Allora cosa possiamo fare? Invece che continuare ad arrovellarci sul perché ce lo stanno facendo, se non vogliamo capirlo, continuiamo sicuramente a fare formazione per aumentare nel numero e per creare una coscienza critica che aumenti di giorno in giorno. E vi assicuro che facendo controinformazione da 30 anni io mi sentivo prima un alieno, oggi mi sento già un compagno, ma ne sono passati di anni prima che mi sentissi come mi sento oggi. Oggi mi sento molto più forte. Quando mi dicono siamo in pochi, no? Potevo rispondere a lei. Lo so che non siamo in pochi, ma siamo sempre in pochi rispetto a ottenere un risultato. La disunione purtroppo quella dipende da altri tipi di caratteristiche che in Italia purtroppo subiamo molto di più. Ma anche all'estero. Perché ci sentiamo sempre superiori l'uno all'altro e quindi la circolarità, la democrazia, chiamiamola come vogliamo, diventa molto difficile, dove tante teste vogliono pensare, vogliono per forza dire a loro e dire ah, io c'ho ragione e tu non capisci un cazzo. Però questo purtroppo di fatto è quello che succede in Italia. Allora ecco, quando io ho pensato a un progetto come questo, non è che questa è la soluzione. Questo è un esempio che io ho presentato per esempio in Spagna, adesso a ottobre, ad altri 60 paesi, e dove altri paesi stanno iniziando a prenderlo in esame. Perché? Perché questo è un esempio di come noi possiamo vivere differentemente, dove possiamo invece che andare a dire ai nostri coetanei, che cos'è? Operazione Piccola Italia. Ah, okay. Una regione, cioè prendiamo in esame una regione d'Italia e diciamo ok, ragazzi, quanti siamo a Venezia? 8 di un collettivo che lavora con le palle, però sempre pochi rispetto a quello che invece fanno il resto delle persone che se ne fottono di quello che accade? Quanti siamo qui a Roma? 10, 20? Quanti sono in Puglia, in Sicilia? 50? Ok, perfetto. Non per sempre. Prendiamo una regione di riferimento e prendiamo tutti i piccoli gruppi che ci stanno sparsi in tutte le regioni italiane e magari richiamiamo chi? altri italiani che sono all'estero. E vi assicuro, io ho lavorato 25 anni in Alitalia, ne ho portati a milioni di italiani che andavano all'estero. Perché? Perché, a differenza nostra che ancora ci crediamo e siamo qua a combattere, sono andati perché hanno smesso di lottare, hanno smesso di sognare un paese diverso da quello che viviamo e subiamo ogni giorno. Ma se noi invece abbiamo dei collegamenti all'estero con nostri amici che studiano, con nostri amici che lavorano, con nostri parenti che si sono trasferiti, e iniziamo a dirgli, stiamo creando in Italia una regione che non è tutta l'Italia, è una piccola parte dell'Italia, una piccola Italia, in un'unica regione che è chiamata Umbria, che vuole creare una regione libera abitata da donne e uomini liberi. Liberi da questi, perché se tu lo fai qua a Roma, valla a dire ai tuoi amici, levati il cellulare dove ormai la maggior parte sono schiavi. A tutti quanti diciamo, però sto cazzo di cellulare, però quando andiamo al ristorante tutti quanti là fanno col QR code. Tutti quanti, dove devo andare? Oggi devo andare a casa, ok, metto il GPS, e me quindi metto di volta. Allora, nel senso, vogliamo fare evoluzioni? Ma con che cosa? Facciamoli dei voli. Allora, invece, che dirlo agli altri cosa devono fare? E io l'ho detto per tanti anni sbagliando. Iniziamo non a dirlo, ma a far vedere come si fa. E facciamo un esempio. Tutto qua. Ma io soltanto una cosa brevissima, grazie mille per questo incontro e per il vostro lavoro, super utile. E rispetto all'ultima parte che dicevi, la geopolitica, l'estrattivismo, la guerra per le risorse, non è affatto secondario come ambito d'analisi. Ma soprattutto questa guerra per le risorse è una guerra a tutto campo, nel senso che io credo che in questa fase la mobilitazione contro la tendenza alla guerra, questo piano inclinato su cui stiamo lavorando, su cui stiamo tutti quanti rotolando sempre di più, è il terreno d'attacco forse principale, no? E questo si vede anche perché ci sono state alcune manifestazioni, per esempio nella stessa Trento, che erano manifestazioni contro il controllo sociale, il progetto delle telecamere, ma in realtà erano manifestazioni contro la NATO. Cioè è emerso proprio perché c'è un collegamento direttissimo, non soltanto perché tutta l'industria estrattivistica comincia con le guerre di appropriazione, con il land grabbing, con forme di colonialismo vecchie o nuove che si danno negli altri paesi, ma anche perché la guerra ha sempre una faccia anche interna, quindi questi meccanismi di disciplinamento che si appoggiano sulla logica tecnologica della conformità preventiva dei comportamenti, non soltanto sulla logica tecnologica, ma chiaramente diciamo, il mondo digitale e tutti quegli strumenti consentono di mettere a sistema una violenza che si dà anche in altre forme, ma con l'accentramento tecnologico chiaramente hai un potere di controllo ancora più esteso e sistematizzabile, no? Della stessa violenza che è già sistemica di per sé. Allora, la guerra diventa anche la lettura del perché hanno bisogno di controllare il piccolo paesino dove la criminalità non c'è, perché non c'è la criminalità che conosciamo che può avere delle cause endogene, diciamo, ma ci sarà forse potenzialmente, cioè siamo, quindi la guerra anche come spiegazione del perché stanno sperimentando e mettendo a sistema tutta una serie di meccanismi di disciplinamento che sono anche di arruolamento della popolazione, che non soltanto deve stare zitta in un momento in cui tutti quanti ci dobbiamo mobilitare per la guerra, ma deve anche aderire, no? Cioè non fanno più neanche prigionieri, anche il silenzio in questo momento è colpevole dal punto di vista del governo. E quindi secondo me questo è il terreno che tiene insieme tutto, anche perché c'è il discorso dell'economia, dell'impoverimento, quindi c'è quindi dell'attacco di classe, ma anche del disciplinamento. Tenderei a impostare le rivendicazioni e le forme di mobilitazione contro il controllo sociale in questo modo, cioè legando fortemente la questione alla tendenza alla guerra, anche perché la stessa democrazia è stato anche cioè è una forma di governo che ha dimostrato storicamente di essere molto capace di chiamare alla mobilitazione di guerra, cioè è più difficile quasi la diserzione dentro a un sistema democratico piuttosto che dentro a un sistema autoritario, quindi è un terreno su cui lavorare. Volevo dirvi un'altra cosa ma mi sono scordata, magari mi viene in mente. Allora, comunque in ogni caso no, io non voglio apparecchio che mi sono un po' strana con quella cosa. Allora, secondo me ci stanno distraendo in tutti i modi comunque, per volgere lo sguardo altrove. E nel frattempo loro continuano a fare quello che vogliono. E quasi nessuno se ne è accorto. Penso la signora, tutti avendo un po' come la signora. Noi siamo 3 anni che lottiamo. Non so se come il signore dice ormai... Rocco, il signore Rocco. Non si sa se questa cosa prenderà piede in tutto il mondo, se non è già così, per quanto... Credo neanche che sia solo una direzione, nel senso noi lì poniamo dare a loro, io penso che loro tramite tutte queste cose possono anche influenzare tutti noi, specialmente sulla nostra stile. Quindi direi importante quello che avete fatto, è importante conoscere queste cose che sono da spavento. Però è importante anche non spaventarsi troppo, secondo me, perché anche questo è la loro fine, nel senso ci sarà una parte di noi che loro non possono toccare, ci sarà una parte di noi che loro non possono controllare, e quella parte di noi, secondo me, che ci dobbiamo allineare, ed è così, secondo me, vinceremo, perché non ci rimane altro. Poi questo secondo me anche così è una guerra, diciamo, spirituale, vogliamo dire. Qui non lo so, mi sembra importante anche staccarsi da queste cose, anche fisicamente. Mi sembra le risposte vengono da un altro livello e dobbiamo saperci anche ricollegarci con quello e non appunto essere distratti da... Dipende tutto da noi, la disubbidienza è in oltranza e dovrebbero unirsi, ma la maggior parte dei gruppi dicono sì ci uniamo, poi ognuno discute per i fatti suoi, perché uno vuole essere capo, l'altro vuole essere capo e alla fine finisce e continua ad essere collettività libera. Per dare un esempio invece, magari la differenza. Ma io lo faccio ogni giorno. È sempre una collettività che è più difficile. Sì. È proprio, penso, almeno tutti quelli che già stanno qua, già lo danno, però... Sì, ma anche quelli... Di fatto subiscono purtroppo la dittatura. È quello il problema, che subiscono. Ma lo subiamo anche noi, di fatto, anche se diciamo di no. Questo è vero, però se iniziamo a disubbidire con le piccole cose, diventano grandi. Lo fa uno, lo fa due, lo fa tre. Chi tutta è ubbidita le mascherine quest'anno, l'anno scorso, 3 anni fa, e tutto il resto. Però, per esempio, faccio il caso mio specifico, io ho subito 28 multe tutte quante annullate, però ho diversi processi in corso, però non è che ho ricevuto un aiuto da parte di qualcuno, anche di noi, per dire che serve una mano. Allora ecco, questo secondo me non c'è solidarietà tra di noi, per quello ti dico, ti ritrovi in una goccia in mezzo a un mare dove difficilmente riuscirai a salvarti e fino a poi annegherai. Se invece creiamo una zattera, piccola che sia, una zattera che ci dia quella sopravvivenza, diventa più facile esistere se c'è collaborazione. Sì, perché si ha più sostegno. Per esempio, i telefonini, cerchiamo di non fare botta e risposta. Cioè, gli interventi preordinati. Se uno fa un intervento, poi lo passa all'altro. In una regione, per esempio, i telefonini potremmo decidere di eliminarli. In Umbria è stata scelta, per esempio, perché abbiamo 800.000 persone soltanto che l'abitano. Solo Roma come città sono 6 milioni. Per ottenere, che ne so, il cambio, la modifica di una buca in una strada, ti servono almeno 3 milioni di persone che ragionano così insieme a te. In Umbria, per prendere un'intera regione, ti passano 200.000 voti. Allora diventi quello che può permettere sempre di dire: da qui non ci sarà più il CDL nelle città umbre, da qui non ci saranno più vaccini nelle città umbre, da qui non si mettono mascherine. Magari nel resto d'Italia le metteranno, ma il governatore di una regione ha un potere polisemico, perché stanno ascoltando anche la parola politica con polisemico, che può cambiare le cose. Allora, quando cambi le cose realmente, non a parole, ma con i fatti, e lo fai anche solo in una regione, lì diventa l'esempio. Allora lì ti seguono anche tutti quelli che ad oggi ti mandano a fanculo. Però dobbiamo creare quell'esempio, è quella la difficoltà. Ma se rimaniamo, ripeto, goccioline, possiamo anche essere goccioline importanti del cambiamento, ma esatto, il cambiamento non lo faremo mai. Posso? Prego. Allora, diciamo che il problema è squisitamente politico, nel senso, qui non si tratta di darsi da fare individualmente, darsi da fare in quattro, darsi da fare in otto, qui si tratta di porre le basi di una risposta che è completamente diversa dal fatto. Certo, la testimonianza individuale aiuta, facciamo resistenza e compagnia bella. Quello che a noi manca assolutamente ancora è un progetto politico di resistenza rispetto a questa cosa. Sicuramente siamo in difficoltà per un motivo, perché il sistema di potere, che poi non è campato in aria, sono nomi e cognomi a livello di governo, nomi e cognomi a livello di partiti, nomi e cognomi a livello di Unione Europea, nomi e cognomi, più vai su, ma sono sempre nomi e cognomi, per cui non nascondiamoci dentro il fatto che il potere non è identificabile. Allora, abbiamo una difficoltà, che siccome il sistema di potere in questi anni ha lavorato benissimo e tantissimo, dalla fine degli anni Ottanta in poi, ha messo in atto una strategia estremamente efficace, ha smontato tutti i sistemi organizzati di pensiero, ha demonizzato tutte le ideologie che fossero anarchiche, comuniste, perfino quelle cattoliche, le religioni, le ha smontate tutte. Ha fatto sì che la gente non avesse più riferimenti collettivi. Quindi la gente adesso, se tu parli con qualcuno, dice: sì, ma cosa devo fare, cosa non devo fare, non c'è nessuno, non so cosa fare. Cioè, dove firmo? Dove firmo? Ha incentivato l'uso, cioè l'abito mentale per cui uno delega continuamente. Ci rispondono quando noi ci organizziamo per protestare contro la ZTL, eccetera: ditemi dove devo firmare. Non devi firmare, devi venire in piazza. Dopodiché, tutto quello che passa come impostazione politica, perché qui c'è stata una ridefinizione totale dei rapporti di forza con gli oppressi dagli anni Ottanta in poi. Questa ridefinizione totale dei rapporti di forza è diventata metabolismo sociale. Non è che se tu imposti un nuovo modo di economico, strutturi la società in un altro modo, questo non diventa metabolismo sociale. Metabolismo sociale vuol dire che man mano la gente comincia a pensare in un certo modo. Hanno cominciato dal mondo del lavoro, hanno individualizzato i rapporti, per cui il collega deve pugnalare alle spalle il collega per andare avanti. Questo diventa metabolismo sociale, diventa individualismo sfrenato, ma anche nella società, in tutti i giorni. Quindi noi ci troviamo di fronte a una società che è cambiata tantissimo, e di questo dobbiamo prendere atto nei rapporti con la gente. La gente è estremamente sbarellata rispetto alla possibilità di costruire sistemi di risposta organizzati. noi ci dobbiamo porre proprio il problema di come costruire sistemi di risposta organizzati. Allora, noi come femministe ci siamo posti il problema, partiamo dai piccoli gruppi, che vuol dire costruire dei gruppi politici che non hanno la pretesa di diventare di massa, che non hanno la pretesa di portare in piazza nessuno, anche perché le manifestazioni di piazza si risolvono in processioni che non servono a un tubo, e ripartiamo da un lavoro politico di piccoli gruppi. È un'idea, però noi ci dobbiamo porre il problema di come ripartire all'interno di un metabolismo sociale che ci è avverso, perché in questo momento la gente istintivamente sente delle cose, però è impostata in maniera completamente diversa, è impostata sulla delega, è impostata sull'individualismo, è impostata sulla paura di assumersi responsabilità, perché anche il fatto che l'esperimento della pandemia e la sperimentazione della pandemia, dei lockdown, eccetera, eccetera, abbiano dato una risposta così positiva dipende proprio da questo, dipende dal lavorio che era stato fatto sulla popolazione, e loro hanno verificato che frutti potevano aver. E i frutti sono venuti fuori, eh? Cioè, adesso man mano comincia a serpeggiare malumore, malcontento, istintiva distanza, però noi ci dobbiamo porre il problema di come porci rispetto a questa roba, perché noi ci troviamo in un contesto non favorevole. Allora, io colgo la palla al balzo. Ovviamente mi associo a tutti gli interventi che... Adesso posso? dai, allora, colgo la palla al balzo per condividere i ragionamenti, le impostazioni che si sono state date fino adesso, e però io volevo fare un passo indietro perché mi sembra di aver capito che voi avete fatto un viaggio, vero? Voi che avete presentato l'opuscolo. Sì, ecco, la prima risposta, sì. Esatto. Quindi ecco, intanto volevo congratularmi con voi che avete fatto un viaggio che di questi tempi non è da poco. Poi avete scritto un opuscolo, lo state presentando, quindi ecco, questa è la parte positiva dell'intervento. Quindi ecco, è una forma di complimento. Poi insomma, non avete ancora 40 anni per gamba, quindi... Quindi anche questo è un complimento, perché ovviamente più passa il tempo, più teoricamente, diciamo, oltre agli acciacchi, aumenta anche la capacità di interpretare la realtà ed avere più strumenti per interpretare la realtà, e questo è un complimento. Detto questo, io mi scuso intanto perché ho dato proprio una sfogliata rapidissima all'opuscolo, però intanto la prima... domanda che volevo porre per tornare sull'opuscolo era se a me sembra che voi avete usato delle categorie, per esempio leggo Russia, Cina, cioè comunque gli stati, no? O la lotta di classe, il proletariato. Quindi la prima domanda è se non avete sentito queste parole, questi strumenti di analisi come limitanti. Nel senso che io in questo periodo della mia vita li trovo molto limitanti. Per me oggi, al di là di quanto io personalmente detesto lo strumento Stato, però nel momento che io lo detesto mi rendo anche conto che è come dire il coltello ha ucciso Luigi, no? Io credo che invece un'analisi un po' più approfondita andrebbe a vedere, diciamo, chi c'è dietro il coltello che ha ucciso Luigi, e questa è una critica, nel senso io leggo Trieste, leggo Russia, leggo e secondo me questo limita molto, ed è la prima critica. E la seconda critica è sempre legata appunto a queste limitazioni, ossia sul fatto che poi si analizza solo la parte geopolitica, mentre invece io ho letto in tantissimi interventi di noi vetusti, che comunque sono sempre contenta di rivedere qua, è comunque un ampliamento maggiore degli strumenti di analisi, arrivando quasi a una cosa spirituale, per dirti, di come uno con la propria coerenza, col proprio esempio e con la propria volontà va contro, diciamo, ormai un sistema di cui secondo me il principale elemento, come abbiamo sottolineato tutti, non è più lo Stato, ma la violenza nella sua forma più assoluta e la tecnologia nella sua forma più penetrante. Quindi ho apprezzato molto l'analisi proprio sul territorio di come sta diventando invasiva la tecnologia, però secondo me si può fare meglio la prossima volta iniziando a ragionare proprio su le parole, il linguaggio, gli strumenti e quant'altro. E la terza cosa, al solito me la so scordata, ottimo. E no, e la terza, ah no, la seconda, manco la terza, non ci sono ancora arrivata. La seconda è, visto che comunque voi siete giovani, la seconda domanda è come vi trovate rispetto ai vostri coetanei, nel senso che io una cosa che ho notato è che diciamo c'è proprio uno spartiacque, per cui diciamo le generazioni prima degli anni 80 ragionano in un determinato modo, con determinate categorie e con determinati strumenti e con i loro limiti, perché ovviamente sono persone che hanno già avuto la possibilità di costruirsi, diciamo, un lavoro, quindi una posizione, eccetera. E dall'altro lato invece ci sono i giovani che comunque io personalmente sto studiando, ma non riesco proprio a trovare un modo per interagire, per coinvolgerli, per portarli, diciamo, sensibilizzarli, penso che il termine corretto sia questo, quindi volevo capire voi come vi relazionate con il resto del mondo e niente, la terza cosa non me la ricorderò mai, quindi va bene così. Una domanda da misura di cioè, non è che sia proprio sicuramente capito, cioè la prima questione è terminologica, cioè dati i termini che noi abbiamo utilizzato, no? Più o meno. Categorie. Sulle categorie. Cioè, vabbè, prima di tutto, vabbè, cioè, la categoria, il termine lotta di classe, cioè, finché esiste il capitale è insuperabile, cioè, nel senso, cioè, il capitale nel suo funzionamento si basa su un processo dialettico, insomma. In cui c'è la controparte è la classe degli sfruttati contro la classe degli sfruttatori, quindi c'è la lotta di classe finché non si arriva a uno stravolgimento dello stato presente delle cose, sarà sempre presente come componente fondamentale. Come l'abbiamo usata noi? Ecco, lì c'è una questione, che noi abbiamo inteso la lotta di classe come quell'insieme di lotte che sono le uniche che possono mettere in discussione lo Stato, cioè non la lotta di classe intesa novecentesca, quindi la classe operaia formata nelle fabbriche fordiste, o quindi la lotta di massa. Ma il proletariato, cioè quando ormai non ci stanno più le fabbriche, i pezzi li costruiscono le macchine, ma manchi i figli. Proletariato non esiste più. No, cioè è una proletarizzazione più diffusa, cioè appunto, cioè il termine, ne parlavamo prima con un altro compagno, no, dell'umanità che si fa classe, appunto, cioè quello che dici te non è la scomparsa del proletariato, ma è l'iperproletarizzazione, è un processo inverso in cui il proletariato, cioè se pensiamo all'accumulazione dei dati, cioè in qualche misura siamo tutti proletari, perché cioè noi produciamo dei dati, non deteniamo i mezzi di produzione, ci viene estratto il plus valore, quindi nel senso, cioè la classe operaia, il proletariato è una componente immanente al capitale, cioè alla società capitalistica, cioè non esisterà mai una società capitalistica senza società di classe. Cioè, supponiamo che il sistema capitalista collassi e questo... Diciamo, ci sono già dei sintomi sul collasso del sistema capitalistico, no? Per cui loro, diciamo, passatemi questo termine, l'elite ha già ragionato sul fatto che il sistema capitalistico collasserà, farà un botto della miseria, eccetera, per cui ovviamente il sistema della produzione illimitata prima o poi collasserà e con tutto il carrozzone, e quindi loro stanno già, diciamo, in una mentalità sovietica razionalizzante in cui diminuzione della popolazione in primis, ipercontrollo, per cui se non ti va bene rinunciare a tutto e diventare per me più che proletario schiavo, cioè non mi è più appropriato, Però in questo senso, nel senso che secondo me bisogna anche mettere in conto il fatto che tra le cose che possono accadere in un futuro sempre più prossimo c'è il collasso del sistema capitalistico, proprio col fatto dell'industria, dell'iperproduzione, in questo senso qua, rispetto invece a una razionalizzazione, mi verrebbe da dire di stampo sovietico, ma in cui non c'è proprio nulla da ridere perché è una sorta di dittatura globale alla fine. Per cui è come paradossalmente che ti fanno credere che arriva la dittatura del proletariato, che alla fine è del pensiero marxista, ma invece arriva la dittatura assoluta. Sì, cioè non prendiamo un orizzonte meccanicista di ispirazione marxista nella dittatura del proletariato, cioè noi ovviamente non rifugiamo da qualsiasi forma di governo. Cioè, quello che diciamo è che in questa fase, in questo momento in cui la società del capitale esiste, esiste la lotta di classe, è un dato di fatto che sta alla base di qualsiasi ragionamento. Sì, cioè nel senso, poi si può fare un ragionamento sulle forme che si dà la classe, cioè sulla classe, cioè sul proletariato, chi è il proletariato, quello sì, ma togliere la lotta di classe dentro la fase attuale, insomma, rischia di fa saltare quello che è appunto il funzionamento abbastanza oggettivo del capitale, secondo me. Cioè la lotta di classe è quella componente immanente e indisciplinata rispetto all'avanzamento del capitale. Si può dire che la lotta di classe adesso non si dà una forma conflittuale, si può dire che non si capisce quale sia la classe proletaria, e questo è un dato di fatto oggettivo. Però, insomma, in un momento di società divisa in classi e definita da rapporti sociali capitalistici, l'unico soggetto, cioè non l'unico soggetto, ma la questione comunque è sempre un discorso di classe, inteso anche come insieme di lotte, non come l'operaio, il proletario, ma proprio anche come la lotta femminista, la lotta contro... appunto le questioni tecnologiche fanno parte comunque di una dimensione di classe, proprio perché è una questione di mezzi di produzione, cioè su chi detiene il mezzo di produzione, inteso come quel tassello fondamentale di creazione di potere, no? Cioè è un livello, cioè la lotta di classe è immanente al capitale. Sulla roba della Russia non capisco come possa essere superato, cioè parlare di Russia e Cina quando comunque sono degli attori in gioco dentro, sì, un processo globale in cui loro sono degli attori, però sono qualcun altro permangono. La domanda erano due, eh? No, se vuoi mettere la seconda. Seconda. Vabbè, la seconda domanda, se ho capito bene, è come noi ci relazioniamo ai nostri coetanei. Rispetto a questo tema, cioè il gruppo che abbiamo scritto sulla smart control room e insomma quello che abbiamo presentato. Abbiamo fatto una presentazione a Venezia qualche giorno fa, dove in realtà sono venuti zero studenti o comunque pochi studenti, perché vabbè, magari ci saranno anche cause riconducibili a noi, il fatto che non l'abbiamo pubblicizzata bene, potrebbe essere anche quello. Però diciamo che a Venezia la questione è molto più seguita da un pubblico più cittadino, quindi da banalmente le persone che abitano a Venezia, e in università non si sente ancora questa cosa, nonostante comunque quando noi magari parliamo con persone con cui veniamo in contatto ci dicono tutti: ah beh, che figata che state facendo, che bel lavoro. Però poi insomma, beh, amici a me l'hanno detto, poi tutti chiaramente, in generale sì, ovviamente le persone che frequentiamo, che andiamo a frequentare, eccetera, quindi amici ovviamente che condividono comunque abbastanza le nostre visioni, e in generale se vengono a presentazione comunque luoghi che frequentiamo solitamente sono comunque, ovviamente, appunto come detto prima, condividere abbastanza le nostre visioni. Per metterla più sul generale è difficile rispondere a questa domanda, perché comunque ci sarebbero un sacco di cose da dire e tantissime cose da sviscerare, e, perché dipende molto appunto da chi si incontra, ecco. Vabbè, noi abbiamo notato molto che ad esempio alle iniziative che abbiamo proposto in generale così, ci sono molte più ragazze che partecipano e che si interessano in quell'argomento, e era un dato che abbiamo comunque elevato in questo periodo, e, cioè, poi vabbè sarà tutto. E, invece la questione, secondo me, è una delle parole diciamo chiave che mentre nella nostra generazione sono i social, e anche il rapporto che ovviamente tutti noi abbiamo adesso. E devo dire che comunque ho riscontrato anche un sacco di persone che in questo ultimo periodo cercano di distaccarsi, ad esempio da Instagram, che ovviamente cioè non è distaccano dal telefono, magari non c'è questa riflessione un pochino più radicale, quindi distaccarsi dal telefono, anche perché è davvero difficile, soprattutto se si fa all'università o comunque in generale a scuola, perché ad esempio per andare in mensa universitaria c'è bisogno del QR code, oppure dobbiamo prenderci in biblioteca per accedere, che dobbiamo passare le cose anche lì, mettere il cognome e tutto quanto, e quindi ovviamente è molto difficile. Però comunque ho notato che ci sono molti giovani che si stanno staccando dai social e che cercano di tornare indietro. Ci sono anche molte domande che si pongono magari sul come vivevano prima, come entravano e tutto quanto, come si muovevano le persone. Però sì, è molto difficile, ci sono anche tante persone che invece non si pongono neanche questo problema ovviamente, e quindi si cioè come parlare con dei muri, cioè, però soprattutto in cioè dal paesino, quindi, vabbè, dalla cittadina in cui vivo, vabbè, sono cresciuta, è davvero difficile parlare con coetanei, anche perché sono molto spesso sono persone che rimangono sempre nello stesso territorio, che vivono sempre le stesse persone, per cui è molto difficile anche arrivare da magari esperienze nuove che a loro sono sconosciute e parlare così. Però. Grazie. Ma purtroppo dovete andare. Mi piacerebbe tanto, però ve lo lascio per voi. Grazie. Spero di seguirvi ancora. Io da noi ci vediamo in Umbria. Grazie. Allora, premesso che da tempo, no? Diciamo sicuramente con l'aiuto dell'esperienza pandemica, no, si ragioniamo su l'importanza degli strumenti, no, tecnologici, per arrivare a una forma di condizionamento dei comportamenti, e quindi anche sia a livello individuale che collettivo, no, è assolutamente dirompente, no? Cosa che indubbiamente è avvenuta, per esempio l'esperienza con per esempio il Green Pass, veramente è stato un momento di rottura in cui la maggior parte della popolazione ha indubbiamente accettato, no? Delle condizioni che fino anche soltanto una ventina d'anni fa, 30 anni fa non avrebbe mai accettato. Su questo ora non credo sia questo il momento di riflettere, cioè quello che è il percorso che poi porta, no, passo dopo passo, a una situazione che poi è quella attuale e che sarà quella futura, in cui se nessuno di noi riesce a capire come o tutti insieme riusciamo a capire come inserire un punto di rottura, ovviamente lo scenario che si prefigura è uno scenario sicuramente inquietante, ma inquietante non perché finora uno abbia mai pensato, almeno io, che invece vivevo in una situazione tranquilla, protetta e buona, e esattamente nella situazione in cui volevo vivere. Voglio dire, io non credo nella democrazia come strumento diciamo garante della libertà di espressione. Non, per me la democrazia è uno strumento del capitale in una fase per poter poi proporre, per poter gestire, no? Quello che poi è tutto l'impianto necessario per e sempre per e solo per fare profitto, perché poi uno questo se lo deve dimenticare, il punto della questione non è il controllo in sé, e su questo sono d'accordo, non è la gestione territoriale in sé, il punto è fare profitto, è sempre lì il punto, è sempre lì l'obiettivo, tutto quello che si muove è la garanzia dell'accumulo del capitale e la garanzia del profitto. Non è possibile, a mio avviso, scindere questa questione da qualunque altro discorso. Non ho mai creduto a questa cosa del collasso del capitale, non penso che sia in fase di collasso, non credo che ci stiamo avvicinando a un altro sistema. Credo che si stia rigenerando, credo che stia cercando nuovi modi per potersi alimentare, ma non credo affatto che siamo alla soglia della fine del capitalismo. Anzi, ritengo che in modo assolutamente più, sempre più proficuo riesca in qualche modo a risettarsi con il nostro aiuto, assolutamente sempre di più, con la nostra collaborazione attiva, consapevole o non consapevole che sia. Ho qualche perplessità sul concetto di plusvalore legato ai dati. Diciamo che i dati, la raccolta dei dati è sicuramente un oro per diverse funzioni, tra cui quella, no, riuscire a capire come estrarre più plusvalore da, no? Come lo è oro per appunto la predizione o per l'individuazione di comportamenti o di diciamo rotture dello stato sociale o di movimenti in atto, come lo è da vari punti di vista, diciamo, la ricchezza dei dati è la ricchezza dei dati. Diciamo, se prima per raccogliere queste informazioni si doveva fare molta più fatica, non che non la facessero, ma la facevano ed era più limitata la possibilità, ora indubbiamente è molto più semplice e soprattutto noi praticamente forniamo queste informazioni a livello volontario, in continuazione, senza neanche rendercene conto. Non riesco a concepire la fine del concetto di classe, non riesco neanche a concepire la fine della lotta di classe, perché l'unica questione, l'unico punto di rottura, perché alla fine se no finiamo a fare salotto, è un punto di rottura che stravolge l'ordine delle cose presenti. L'ordine delle cose presenti, se mosso su base materiale, ok, è qualcosa che deve stravolgere assolutamente la distribuzione della ricchezza, la distribuzione del profitto, la distribuzione di quello che c'è. Non siamo tutti uguali noi umani. Qua apro un piccolo il rischio di alcune letture, no, in cui io condivido anche in parte riguardo alla questione dell'attacco all'umanità, no? Sì, sicuramente il concetto di umano in questo momento è un po' diciamo va ridefinito, no, come minimo, ma gli umani non sono tutti uguali. Non siamo tutti schiavi. Non siamo tutti al servizio di sono sempre umani quelli che fanno sta roba qua, voglio dire, cioè non è che stiamo parlando di un'entità a sé o divina o così meccanica senza definizione, sono umani quelli che fanno profitto, sono umani quelli che estraggono plusvalore, sono sempre umani e fanno parte di una classe ben precisa che è la classe borghese. Ora possiamo trovare anche un altro modo di dirla sta roba qua, vogliamo parlare di sfruttatori, vogliamo parlare di quello che ci fare, però sostanzialmente è questo, non siamo tutti uguali, non viviamo tutti nella stessa condizione, non abbiamo tutte le stesse ambizioni. Ad esempio nella questione stravolgente della lotta interna alla classe borghese riguardo alla media borghesia, piccola borghesia e alla forbice che mano a mano alla proletarizzazione della società, non è la stessa cosa. Cioè, quando io mi trovo, per esempio, mi è capitato anche durante le lotte contro il Green Pass in piazza con magari un commerciante, con magari un qualcuno che ha dovuto chiudere la sua attività, non è la stessa cosa, ma non perché quello è uno chissà chi è. La sua ambizione è quella di ritornare come prima. La mia ambizione è rompere lo stato di cose presenti. Cambia nettamente. Cioè, è tutta un'altra prospettiva. E sta cosa, da militanti, voglio dire, militanti uso un termine, no? È una questione che non dobbiamo dimenticare mai, perché altrimenti rischiamo di confonderci e pensare che la questione è la tecnologia in sé, o la questione è una cosa astratta che non si sa bene che cosa diventiamo. No, no, la questione è perché e che cosa cazzo stanno costruendo e stanno mettendo, la rete che stanno tirando fuori per poter fare sempre più profitto, per poter sempre sfruttare tutto quelle che sono risorse del pianeta, nostre, e il nostro lavoro, perché non è finito il lavoro, non è che adesso veramente ci sono i robot da tutte le parti, non è che effettivamente io la mattina non mi alzo alle 6, vado sul posto di lavoro alle 8, sta lì tutto il tempo che ci devo stare e poi non ritorno più a casa, il mio lavoro lo sfruttano e come, e il lavoro di tutti noi lo sfruttano e come, la realtà non la perdiamo. Capiamo però che al momento siamo al servizio, no, di tutto questo in qualunque momento della nostra esistenza, quindi non più solo al lavoro, non più solo in un contesto specifico, ma sempre, sempre in qualunque istante della nostra esistenza, quindi siamo consumatori, ok, siamo, ci hanno insegnato tutta questa divisione, no, dei mille settori, questi mille settori in realtà è sempre tutto in uno, cioè è sempre l'organismo. Allora noi in questo momento in toto, qualunque cosa facciamo in qualunque momento della nostra esistenza, siamo al servizio di tutto questo. Allora cerchiamo di capire qual è il punto di rottura, perché altrimenti non ne usciamo, no? Non può essere solo un'azione individuale, per carità, io lascio il telefono a casa quando smetto di lavorare, no? Perché io lo faccio questa cosa, ma ho iniziato a farla, mi libero da questa cosa, c'è chi, che ne so, non c'ha la connessione, c'è chi, insomma, ci possono essere vari strumenti, ma il punto è com'è che gli rompiamo questo giochino? Ora, mi dispiace, è andato via, è ovvio che da formazione per me è un po' difficile pensare che un esempio di candidatura, un esempio locale, no? In cui diciamo una gestione di un territorio ristretto in un ambiente con questo contesto così ampio possa effettivamente incidere, perché non ritengo che, cioè, un po' come tutte le esperienze, nel momento in cui poi vanno veramente a rompere i coglioni ti bastonano e non c'è niente da fare, quindi se vai in rottura con questa esistenza, col sistema di rappresentanza, con l'illusione democratica, se vai in rottura con la pace sociale, se vai in rottura con tutto questo, a un certo punto arrivano, e attraverso i dati, attraverso ancora di più ora, attraverso tutti gli strumenti che abilmente stanno sperimentando e che metteranno presto tutti insieme, noi siamo completamente impreparati, forse è il caso che ci prepariamo, ma al di là di tutto ovviamente l'obiettivo è sempre quello, alla fine ti bastonano, perché tu non puoi rompere. Non puoi rompere, questo è il problema, è sempre lo stesso, è sempre quello di prima, come mo. Il punto è, se tu vuoi rompere, io ti ammazzo e massacro. Cioè, se tu vuoi opporti a questo, io ti massacro. Quindi magari dotiamoci di strumenti per sapere come magari resistere a questo massacro, perché altrimenti potrebbe venire l'idea di non fare più niente, e questo però assolutamente vorrebbe dire pure rassegnarsi a un esistente che non può essere, no? Almeno per chi. E capiamo come possiamo dargli fastidio a livello collettivo. Ma non c'è una risposta pronta, secondo me, c'è qualcosa che dobbiamo un po' piano piano elaborare e costruire, comunque intanto capire bene come funziona tutto questo forse ci aiuta, no, anche a capire in che modo noi possiamo contrapporci a tutto questo, voglio dire, si basa tutto su calcoli, algoritmi, certezze, predizioni, probabilità di comportamento. Se tu fai una cosa, allora c'hai questa possibilità di fare questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro, magari un po' di confusione, magari un po' di no, cerchiamo di non rendere questo algoritmo sempre così facile da costruire. Perché noi lo rendiamo molto facile, siamo molto prevedibili nelle cose, no? In generale, anche quando uno va a comprare un paio di scarpe è prevedibile, no? Quindi indubbiamente tutto si basa su questo, su quel lavoro che è stato fatto prima, ben prima di questo, cioè il fatto di rendere la nostra vita strutturata, organizzata già prima, ma in modo piuttosto prevedibile, per cui ecco. Ragioniamo su questo, però il fatto che ci sia una classe contro l'altra, io questo proprio non posso proprio fare a meno di pensarlo. Non credo che l'obiettivo sia la dittatura sovietica, io credo che questa è la dittatura del capitale, che poi la vogliamo chiamare dittatura del capitale democratica, che poi la vogliamo chiamare dittatura del capitale, che ne so, comunitaria, o poi, perché poi ce ne sono varie, questa è la dittatura del capitale, era la dittatura del capitale, è la dittatura del capitale, credo sarà la dittatura del capitale. Grazie. Ma ti volevo domandare, tu riduci tutto al profitto, sì. Il telefonino che vogliono, il pass, cioè queste storie di queste ragazze che parlano che devono avere il pass, sì. Il telefonino, dov'è il profitto? Il profitto sta nell'utilizzo di questo controllo del flusso territoriale. Mi sembra che tu concentri il profitto in soldi. Lo posso dire? Non vedo soldi io, dimmi lo altro. Ma come per la prima rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione industriale, voglio dire, serviva la rete delle infrastrutture per poter mandare la gente al lavoro, per poter raggiungere le fabbriche o poter trasportare merci, no? Voglio dire, io ritengo che i dati siano in questo momento il materiale necessario, ok, a permettere no, non solo per quello, ma per permettere a chi già lo fa di fare sempre più profitto. Cioè non è che in quel momento si fa profitto, ma quello serve per fare profitto, anche per fare profitto ovviamente, non solo, ma principalmente sì. Cioè a un certo punto anche conoscere i flussi di spostamento territoriali delle persone, quello che in quel momento fanno, i loro comportamenti, mi permette di organizzare, di gestire l'organizzazione di uno spazio, di un comportamento individuale, di un flusso, di un acquisto, di un interesse, quello che a suo tempo si chiama marketing, cioè voglio dire è già ben conosciuto da tempo, ok? Solo che è un po' più avanzato, un po' più diciamo specializzato, via via sempre più affinandosi, ma c'era già prima. Cioè io no, all'università sociologia e c'erano mille esami di marketing su come condizionare i comportamenti, gli acquisti e tutto. Non è che in quel momento io producevo profitto, ma a quel momento si fornisce materiale assolutamente importantissimo per fare più profitto. Però secondo me quello che dici in realtà riduce l'importanza del profitto, nel senso che qua si tratta di un livello di marketing diverso, ma in fondo sempre di marketing stiamo parlando. La cosa, l'elemento nuovo è che questa roba, questa rivoluzione tecnologica sta diventando un sistema diverso. Se noi non centriamo questo elemento di novità, rischiamo di utilizzare, secondo me, delle categorie un po' ottocentesche. Cioè il sistema tecnologico di oggi sta diventando un sistema vero e proprio da cui sarà sempre più difficile uscire. Inoltre, rispetto a quello che dicevi tu, secondo me io non sono tanto d'accordo sulla tua lettura della classe, perché per me la classe è la classe che lotta per cambiare la propria condizione. È vero che cosciente. È vero che il piccolo commerciante che magari stava lì nella piazza voleva tornare, è vero, ma è anche vero che magari il proletario vuole invece diventare il calciatore di turno, quindi non è un problema di condizioni materiali della classe, è un problema di, ovviamente, di che coscienza tu hai rispetto alla tua condizione e di che di come ti poni rispetto a questa condizione. Questo secondo me è un elemento fondamentale oggi, perché altrimenti ancora meno strumenti abbiamo per capire chi è sta classe, perché da un punto di vista appunto di proletario è cambiato il lavoro, almeno nel mondo occidentale. Secondo me, rispetto però alle questioni che ponevi, un elemento importante è l'infrastruttura che rende possibile questo sistema. Cioè, non dovremmo dimenticarci che questo sistema alla fine è fatto di cavi, di materiali, di server, di una potenza elettrica proprio che è necessaria. Tutto questo è sempre materia. Cioè, non è che è nell'iperuranio. Se tu un cavo lo tagli, quel cavo non funziona più. Se tu... questo... voglio solo dire che tutto questo sistema poi si fonda su ancora un elemento materiale che esiste, che è un campo di lotta. Come? Però... non è anche per uscire un po' da un certo sguardo apocalittico, cioè se tu spegni i server di Amazon e mandi al macello quasi tutto internet, perché Amazon guadagna molto di più dai suoi server che dal commercio. Quindi secondo me come dare fastidio è sempre sull'intralcio che puoi dare rispetto al profitto, e qui sono d'accordo, ma anche sul... è come se per arrivare a fare questo c'è bisogno di creare coscienza di classe con tutto ciò che questo vuol dire. Quindi è un lavoro, come dire, su due fronti: da un lato quello dell'azione, da un lato quello di creare le condizioni perché questa azione avvenga. Secondo me, se si lavora solo su un lato, solo sull'uno, cioè solo sull'azione pura e semplice, o solo sul concetto di autonomia, che era poi, mi sembra, il progetto che lui stava proponendo prima, cioè io formo una comunità autonoma con un'economia circolare, eccetera, e mi smarco, però poi come la difendi sta comunità? Cioè, non è che poi puoi aspettarti che quelli ti lasciano star là senza... e poi il fucile ti serve, perché quando quelli ti attaccano non è che tu dici no, ma io qua sto coltivando le api, sì, però... quindi il progetto di una comunità autonoma è sempre un passaggio, un passaggio che serve a creare una lotta, a creare le condizioni per una lotta, ma non è la lotta in sé, è una parte di questa lotta. Forse volevi intervenire tu. Mi sono un po' persa adesso. No, però sulle categorie ottocentesche o meno, secondo me è anche importante vedere, perché ogni epoca, questo è anche io credo che questa sia una fase di transizione, un crinale molto netto, cioè stiamo passando in un'altra epoca in cui ci sono dei salti qualitativi. Che questi siano elementi di novità e discontinuità, forse non sarei così tranchant nel definirli, però ci sono delle mutazioni, come sempre accade, la scala dei problemi aumenta, ci sono delle proprietà emergenti, no? Molto banalmente. Il rapporto tra profitto e tecnologie e anche tra settore privato e pubblico, cioè uno degli elementi di novità che vedo è che tutti questi strumenti di marketing, profilazione e indirizzo, diciamo, dei comportamenti sono stati prima usati dalle aziende e adesso entrano in possesso invece della pubblica autorità, quindi vengono usati anche a fini repressivi, mentre invece prima ti ritrovavi semplicemente con i pop-up delle aziende perché li usavano loro. Però d'altra parte il panottico nasce dentro a un'industria, no? Cioè questa osmosi tra pubblico e privato, tra mercato e Stato, delle modalità di repressione c'è sempre un po' stata, quindi ogni volta devi analizzare quali sono le novità del tuo tempo, ma senza pensare che siano dei meccanismi inusitati o che cambino radicalmente la dialettica e l'interesse di base. Una delle cose forse da vedere anche di questo tempo è che siamo anche abituati da una propaganda che induce a un'immagine diciamo che si costruisce un immaginario distopico come di sterilizzazione, di ipertecnologizzazione, mentre invece qua i problemi, come si diceva, per tornare alla materia, sono molto materiali e ci sono degli elementi ottocenteschi di questa società molto forti: il cottimo sul lavoro, la morale che sta tornando, diciamo, molto più bigotta. Ci sono tantissimi, cioè ogni epoca ha una stratificazione di quelle precedenti. Quindi anche insistere sul fatto che sì, andiamo verso un controllo digitale, ma non è che è un controllo, non è una società digitale che ci fa stare tutti asettici con le mascherine, senza, no, stanno tornando le pandemie, non funzionano le fogne, cioè ci saranno delle condizioni materiali di vita che invece torneranno indietro, non andranno avanti verso questi, quindi là anche sta la materialità da attaccare, no? Cioè ci sono delle questioni, come non tutti gli strumenti di controllo passano per il digitale, perché molto banalmente, quando si diceva prima che la globalizzazione ha subito un arresto, sì, credo che abbia subito un arresto dal punto di vista della circolazione di alcune cose, cioè le persone, non ha subito un arresto dal punto di vista della circolazione dei capitali e forse anche un po' dei servizi ha subito un arresto. Un meccanismo di controllo è il fatto che uno studente in Italia non può più scegliere, un ragazzo di 14 anni non può più scegliere di andare in un liceo fuori dal suo quartiere, no? Perché il mondo ce lo stanno, la nostra sfera di azione materiale la stanno riducendo. Quindi non tutto il controllo passa per gli strumenti digitali, il digitale permette di mettere a sistema una violenza strutturale che si dispiega in vari ambiti, però permangono appunto le linee di sviluppo di questa transizione, non sono futuristiche, ma anzi recuperano degli elementi del passato in tantissime forme. Penso che quella sul lavoro sia la più la palissiana, perché ci sono delle forme non soltanto di schiavismo, ma proprio anche o la gestazione per altri, che c'è il contratto a prestazione integrale, insomma capire pure che questa materialità non soltanto è un'infrastruttura ancora fisica con cui ci si può confrontare, ma anche che ci saranno delle condizioni, un deterioramento delle condizioni materiali proprio fisiche dei nostri spazi di vita, della nostra qualità della vita. Posso chiudere? Ringraziare tutti quanti, ringraziare le compagne e il compagno di Venezia, e ci ha fatto molto piacere.